Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Si può fare 800 24 00 24. Cominciate a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare l'attualità anche questa sera, le nostre good news, la bella storia con cui ci lasciamo alle 20:15. Questo è quello che prevediamo per questa sera. I nostri contatti sono sempre gli stessi, se volete interagire con noi su Twitter in diretta, diciamo così. Il mio account è @ Ale Maurizi, quello del programma è @ Si può fare 24. Iniziamo con i titoli di Sky TG24. Se ci sarà crisi non sarà colpa mia, dice Berlusconi. Alfano chiede al PD di votare contro la decadenza. La torre Sky TG24, è impossibile che il PD non voti per la decadenza. Grillo subito al voto e Napolitano si dimetta. Egitto Mubarak è stato scarcerato, l'ex Rais ha lasciato la prigione di Tora a bordo di un elicottero. Wikileaks, il soldato Manning dice di essere donna, chiamatemi Chelsea, e chiede la grazia al presidente Obama. Siria, si è confermato l'attacco col gas, la Francia minaccia l'uso della forza, l'ONU chiede chiarezza ma glissa sull'inchiesta. Terremoto nelle Marche, tanta paura ma nessun danno, roccia si stacca da Monte Conero e cade in spiaggia. Napoli incastrato dalle telecamere di sorveglianza, un poliziotto privato che derubava i clienti di una banca. Scambi d'accuse e minacce sul Canal Grande a Venezia, ancora tensione tra gondolieri e conducenti dei vaporetti. Prima eravamo due nemici, poi ci siamo innamorati, e da quando c'è l'amore, grandi amici siamo noi. Il Popolo della Libertà non chiede al Partito Democratico un gesto e un voto a favore del presidente Berlusconi, però con altrettanta forza noi diciamo che chiediamo al Partito Democratico di non dare un voto contra personam, contro il loro avversario di sempre, contro il loro nemico storico. Un libro nuovo che mai finirà. Nessuno ci farà cambiare idea, nessuno ci può tirare per la giacchetta, faremo le cose con serietà, con onestà, con rigore. Nell'incontro con tutti i volontari, tutti a dirmi teniamo ferma la nostra linea, confermo, come ho avuto modo di dire a più riprese, che questa è e resterà la linea del Partito Democratico. Eravamo due nemici, poi ci siamo innamorati. Siamo competenti, perfetti, onesti, trasparenti e non ha paura fottuti. Quindi adesso stiamo quasi per arrivare alla scena finale del film Le Iene, quando i gangster si sparano. PDL e PD meno L hanno fatto questo inciuccione cercando di dare la colpa a me, a noi, che dicevamo di no a questa farsa che hanno fatto. In fondo volevano solo dei voti in più per avere la maggioranza e governare sempre a loro piacimento senza di noi. Poi è successo che lo zio evasore è venuto fuori con la condanna, magari non se l'aspettava nessuno, e ha messo in crisi tutto questo apparato che era già in crisi. Due nemici innamorati, anche questa volta la redazione Riccardo Poli e Riccardo Buccero è andata a ripescare una canzone azzeccatissima per questa giornata. Adriano Celentano e Claudia Mori, due nemici innamorati. Siete voi che volete far cadere il governo, dice Alfano al PD. No, siete voi che ci ricattate, replica Epifani. Pensate cosa sarebbe successo se invece di avere il governo con PD e PDL alleati avessimo avuto i due partiti sulle opposte fazioni. Sarebbe crollato il mondo in questa situazione qua. Invece forse tutto sommato ci stiamo risparmiando qualche inutile bordata in più. E poi sono le parole di Grillo, che tra l'altro Avete sentito, insomma, no? A modo suo, la scena finale del film Le Iene, dice Grillo, quando quasi per errore gli amici nemici si sparano tra di loro. Sentiamo Grillo quando dice: la realtà è che hanno paura perché se andiamo a votare con il Porcellum vinciamo noi. Sentiamo. Allora adesso si tratta di andare alle elezioni subito, di andarci e andarci con questa legge elettorale, perché hanno una paura fottuta che noi con questa legge elettorale, il porcello che loro hanno usato per 8 anni senza fare niente, possa avvantaggiare il Movimento 5 Stelle col premio di maggioranza. Hanno una paura fottuta che andiamo alle elezioni e ci sarebbe anche la possibilità di vincere, e questo li fa andare in bestia, perché c'è il semestre italiano e l'Unione Europea. Noi non ci sono stati, siamo i primi di una storia che finire non potrà. Al di là delle dichiarazioni di principio più o meno urlate, più o meno espresse, dichiarate, poi ci sono delle manovre più o meno sotterranee, più o meno non dette, nelle quali si capisce che il Partito Democratico comunque non è contrario a concedere a Berlusconi più tempo per la sua autodifesa in giunta delle immunità. Così la dice Violante. Gli aspetti politici dovrà vedere il PDL, gli aspetti più giuridici, più giudiziari sono di competenza della Giunta e del Senato. Io credo solo questo, che i problemi politici dovrà risolvere il PDL. E comunque a Berlusconi, come a qualunque altro cittadino, va riconosciuto e garantito il diritto di difendersi, anche davanti alla Giunta e davanti all'Aula. Una storia che finire non potrà. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Cominciate, cari ascoltatori, se volete a prenotare il vostro intervento, 349-238-6666, se ci volete scrivere invece un SMS. Salutiamo il direttore del settimanale Tempi, Luigi Amicone, buonasera. Buonasera. Allora, Amicone, prima di tutto vogliamo partire con lei, visto che siete autori in questi giorni al meeting di Rimini di una raccolta firme contro il disegno di legge sull'omofobia. Avete già raccolto quante firme? Ma non lo so, credo qualche migliaio. Siamo autori insieme ad altre associazioni, associazioni di giuristi, altre testate giornalistiche cattoliche. E voi sapete che noi siamo contro l'omofobia, ma siamo contro una legge che prende spunto dalla omofobia per limitare la libertà di espressione, perché questo è il tema, non è il tema. Questa cosa è stata in effetti sollevata anche da altri, ma secondo lei è voluta o è un inciampo di questa legge che per troppo zelo incide anche sulla libertà di espressione, e perché? Inciampo perché sono, come al solito, i politici, per trovare un ampio spettro di consenso, diventano superficiali, no? Dicono: ma l'importante è, e lì infatti è stata approvata da PDL e PD insieme questa proposta, invece di entrare nel merito e farla bene, fare una cosa seria, si sono accordati genericamente per ottenere il consenso e poter dire sì, vedete. Poi succedono, dico un esempio, sì, che l'altro ieri a Bari o a Bisceglie c'è stata una pièce teatrale che raccontava la storia di un gay convertito che poi aveva fatto una terapia riparativa, che quindi era diventato una terapia riparativa. Sì, c'è una terapia, ci sono anche queste cose, no? Sì, sì. Perché tu sai che c'è la libertà di sentire il proprio disagio come eterosessuale, ma può essere anche un omosessuale. Che può, vabbè, questo sì. E quindi c'era questa pièce teatrale, e che è successo? È successo un casino. L'ercigay, PD, SEL, eccetera, hanno fatto un comunicato durissimo dicendo: vedete, se ci fosse la legge sull'omofobia, queste PS non esistono, non potrebbero. Vabbè, questo però è sbagliato. Cioè, un conto è criticare la PS, uno dice non mi piace la PS, un conto, però io credo che la legge, però io francamente adesso lo voglio capire anche insieme a te, però io credo che la legge non c'entrerebbe nulla con una cosa del genere. Cioè, uno dice: la PS non mi piace, non ci vado, faccio una critica negativa. Perfetto. Sul giornale. Però è quello che penso anch'io, esattamente come te, ma siccome nei termini in cui è configurata questa legge permette a queste posizioni di, tanto è vero che è stato esplicitato, andate a vedere anche oggi ci sono, per esempio, pagina di Avvenire, ci sono i comunicati di entrambe le parti. Sì. Siccome la legge è configurata così non bene, allora se organizzazioni così importanti affermano pubblicamente, se non ci fosse, se ci fosse oggi quella legge lì, queste cose non si potrebbero fare, capisci che siamo proprio nel tema del pericolo di usare una legge per zittire chi la pensa, sì, diversamente. Però ecco, adesso facciamo intanto una pausa per il traffico, che dobbiamo farla, però io dico come la penso. Penso che sia sbagliato sia chi, come non so, l'Arcigay, in questo caso, usa la legge, che tra l'altro non c'è ancora, ci sarà se sarà votata, per voler fermare questa pièce teatrale, sia però chi, come nel vostro caso, raccoglie le firme contro questa legge, che secondo me è molto più innocua di quello che si ritiene. Però io non sono un esperto di leggi, quindi adesso poi vediamo sul concetto di superiorità o di odio razziale e anche per quanto riguarda l'omofobia cosa possiamo dire. And now the good news. Per la prima volta un progetto italiano è stato premiato al Solar Decathlon, le Olimpiadi dell'architettura sostenibile. Si tratta di Made in Italy, una casa ideata dai ragazzi delle università di Roma e Bolzano, che produce il triplo dell'energia che consuma, sfruttando unicamente i pannelli fotovoltaici. D'altra parte, Kist è o paese do sole. (800) 24 00 24, più avanti con i vostri interventi, cari ascoltatori. Adesso invece in compagnia di Luigi Amicone, direttore di Tempi, stavamo parlando, ora non voglio entrare nei tecnicismi della legge, può darsi voglio precisare. Voglio proprio precisare che sono proprio in linea con quello che stai osservando. Infatti la nostra raccolta di firme non è contro una legge qualsiasi, legge verrà sull'omofobia, ma contro quella, questa che prevede la possibilità che ci siano poi fenomeni come quello che abbiamo visto testé in questi giorni. Perché, ora, può darsi che sia scritta male, l'Italia, ahimè, è piena di leggi scritte male, purtroppo, però guardando appunto al testo, dice che è punito con la reclusione da fino a un anno e sei mesi, una multa fino a 6.000 euro, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o l'odio, o chi incita alla violenza, basandosi appunto su questioni razziali, etniche o sull'omofobia, cioè chi porta avanti il discorso di superiorità, ascoltami, non di preferenza, cioè se io dico preferisco essere eterosessuale o gay, lì ma non... No, ma scusa, pensa alla genericità, o chi... Sì. È caduta la linea? Di Amicone? Vediamo se lo recuperiamo. Vabbè, credo che non sia fatta apposta, non so cosa è successo, stava rispondendo su questo. Va bene, allora lo recuperiamo tra un attimo, non so se facciamo in tempo prima di dare la linea a un ascoltatore, perché sennò poi dispiace interrompere. Vabbè, facciamo un ascoltatore allora. Ernesto da Roma, buonasera. Buonasera dottore, a lei e agli ascoltatori. Eccoci qua, sì, prego. Senta, niente, io se torna Amicone però interrompiamo, glielo dico subito. Sì, sì, vale. Volevo parlare brevemente. Ecco, interrompiamo subito perché non sentiamo nulla, purtroppo. Ernesto, resti in linea, proviamo a richiamarlo, anzi. Giovanni da Milano invece, buonasera. Sì, buonasera, sono Giovanni Cafaro, buonasera. Prego. Senta, io chiamavo perché volevo appunto farvi partecipare di questa mia iniziativa. Ho creato un gruppo su Facebook dal nome Tagliamo le pensioni, gli stipendi d'oro, dove sto raccogliendo adesioni e iscritti, perché voglio raggiungere la quota di 5.000 iscritti e organizzare una manifestazione a Roma davanti al Parlamento. Perché 5.000 iscritti? Non è che siano tanti 5.000 per fare una 5.000 manifestazione. 5.000 iscritti può essere già un buon numero. Beh, no, certo, sarebbe un buon numero per una pagina Facebook. Per fare una manifestazione rischiate di trovarvi in 25. Però se è un'iniziativa... Anche 25, io firmo, perché tagliamo le pensioni d'oro, se intendiamo quelle... per esempio quella di 90.000 euro al mese, o comunque quelle di più, credo, non mi ricordo qual è la soglia, 5.000 euro al mese, non ricordo. Guardi, sì, il numero è 103.000 pensionati d'oro che percepiscono 90.000 euro al mese. È uno scandalo. No, dobbiamo... non percepiscono tutti 90.000 euro al mese. No, diciamo, il tetto massimo E se non ricordo male, qualcuno ha calcolato che ci costa, lo stesso Giovannini, ci costano, della Ringa anzi, che è il sottosegretario che ha fatto questa istruttoria, 13 miliardi di euro l'anno, che è una cosa pazzesca. Guarda, Guardi, questi 13 miliardi di euro all'anno si possono tranquillamente recuperare e si possono dare dei redditi più dignitosi ai pensionati, agli esodati, ai precari, cioè si può portare, ci sono persone che pensionati che percepiscono 300 euro al mese. Io conosco personalmente nella mia zona di Milano, nel quartiere Adriano, ci sono persone che vivono in macchina, ho le tra foto. L'altro, guardi Giovanni, visto che lei vuol fare questa iniziativa su Facebook, tagliamo le pensioni d'oro, credo che la strada annunciata dal ministro Giovannini, o non mi ricordo lui, o Mastrapasco, quello dell'INPS, un altro che credo di super stipendi se ne intende, però voglio dire, la strada è quella giusta, cioè fare un fondo di perequazione sempre tra pensionati, altrimenti si rischia di sentirsi dire alla Corte Costituzionale che il prelievo è incostituzionale. Invece Giovannini dice prendiamo i soldi dalle pensioni sopra i tot mila euro e li diamo a chi ha 400-500 euro di pensione al mese, e lo portiamo a dei livelli di dignità. Questo mi sembra inconfutabile e incontestabile. Abbiamo un tetto di 5.000 euro a mese, ma questo vale anche per i super manager che prendono 400.000 euro all'anno, cioè, non solo per cioè non tagliando tutte le pensioni sopra i 5, perché no. Se uno pensa che vogliamo fare l'esproprio, no, però se uno guadagna 10.000 euro di pensione al mese, forse sono tanti, forse un quid lo può dare in solidarietà a chi guadagna 400 euro al mese ed è a livelli molto diversi. Grazie Giovanni, non lo so, auguri per la sua iniziativa. L'ha già aperta la pagina? Sì, l'ho già aperto, in 10 giorni ho già 630 iscritti. Tra l'altro sono intervenuto anche alla trasmissione Spunti di Vista l'altro giorno da voi. Abbiamo fatto l'unplane, ripetiamo il titolo, tagliamo le pensioni d'oro, così si chiama? Tagliamo le pensioni, gli stipendi d'oro, nella mia pagina di Facebook Giovanni Cafaro, quindi bisogna accedere al mio profilo e si può iscrivere. È un gruppo chiaramente apolitico, trasversale, non c'è nessun orientamento politico. Quindi bisogna iscriversi alla sua pagina per poter... Esatto. Faccia una pagina apposta, no, ad hoc? Sì, no, c'è già la pagina, ho il mio profilo direttamente nel gruppo. Quindi grazie. Io cerco di dare una risposta per quello che possiamo, insomma, però dobbiamo agire in questo momento, basta non risposte, perché purtroppo tutti parlano e nessuno agisce. Buona serata, grazie Giovanni. Grazie a lei, buona serata, complimenti per la trasmissione. Grazie. Claudio da Roma, prego. Pronto, intanto amicone, deve essere esaurita la batteria o forse è finito in un tunnel, non lo so dov'era, forse era Rimini, però magari se qualcuno è vicino ad amicone ci sta sentendo alla radio, gli dica di mettere il telefono in batteria e la ricarica. Così continuiamo l'intervista, se no è un peccato. Claudio, buonasera. Senta, io ho tanti amiconi, ma non è quello giusto. Senta, quel signore si chiamava Giovanni da Milano, io penso che neanche se si chiamava Sant'Ambrogio risolve, perché il problema non è la quantità che ti seguono, basterebbe avere amici in Corte Costituzionale con un po' di buona volontà, che invece di votarsi loro la legge per i loro stipendi, se con un po' di coscienza si rendessero conto che stanno esagerando. Ma dove si trova? Sull'accordo anulare di Roma? Dov'è? No, sentiamo... io sto zona Tor Sapienza. Sentiamo dei rumori tipo autostradali. Sì, perché stavo all'incrocio e è passata una corriera. Sì. Ne passa una ogni morto de papa e passata proprio adesso. Senta una cosa, io chiamavo perché stavo in macchina, sono dovuto scendere. Sto venendo dei conati di stomaco, sentendo Violante, che gli attaccava la tiritera. Ve la ricordate? L'abbiamo vista un milione di volte in Parlamento, lui indirizzato agli amici di destra. Ragazzi, ma lo sapete, noi siamo d'accordo, vi abbiamo dato tutte le garanzie, e lui continua a dare le sue garanzie. Allora, la Cassazione ha votato. È inutile andare a cercare ancora qualche soluzione per questo nostro amico, si deve ritirare, se ne va in un'isola sperduta nel Pacifico, fa come Hemingway, inizia a scrivere qualche bel libro tipo L'uomo e il mare o altre bisogna cose vedere se ha lo stesso dono della scrittura, altrimenti non funziona. Va bene Claudio, potrebbe funzionare se si toglie di mezzo, e auguri a Violante, continuasse così che entra nel cuore di tutti. Grazie, buona serata. Bisognerebbe vedere se alle prossime elezioni, se cambia la legge elettorale, Violante quante preferenze prende, quanti voti prende, perché quello che ha detto l'ascoltatore è che con questa linea, un po' fuori forse dall'ortodossia del PD, Violante non entra sicuramente nel cuore degli elettori del PD, magari più di quelli del PDL, potrebbe prendere i voti da quelli del PDL. And now, the good news! Molfetta è attivo il primo taxi sociale, un servizio di accompagnamento gratuito dedicato agli anziani e ai disabili con problemi di mobilità residenti nel comune. Il servizio è svolto con un'automobile attrezzata che accompagna gli utenti negli spostamenti in città. Serve un passaggio? Niente, mi sa che Luigi Amicone aveva proprio la batteria scarica del telefono e quindi gli è morto all'improvviso. Proviamo a vedere se si fa il ponte con qualcuno che è con lui lì vicino, però non credo che sarà tanto semplice. Peccato anche perché Berlusconi aveva rilasciato proprio a settimana alle tempi, credo la prima intervista dopo tutta la baraonda che c'è stata, nella quale ha usato la metafora dei due amici che vanno in barca e uno che butta fuori l'altro. Questa era un'altra cosa che avevo voluto chiedere, cosa emerge da questa intervista. Vabbè, poi vediamo, andiamo più avanti. Intanto, ascoltatori, avevamo Marisa da Savona in sospeso, eccola qua. Buonasera Marisa. Buonasera, grazie. Tocca a lei, prego. Sì, volevo semplicemente dire che mi preoccupa molto questa insistenza, questo ricatto di Berlusconi e di chi gli sta attorno, perché tende a portare alla rovina il paese, e mi preoccupano anche appunto le persone con i paraocchi che non mettono sui piatti della bilancia tutti i pro e tutti i contro, iniziare da l'IMU così intera e basta, senza rendersi conto che i comuni stanno di destra e di sinistra, molti stanno agonizzando, tagliano i servizi sociali e così via. Ecco, questo mi sembra veramente un ricatto molto triste, particolare in questo momento, questo volevo dire. Grazie Marisa. Intanto c'è un'intervista di Graziano Del Rio, il ministro degli affari regionali, a Sky TG24, nella quale Del Rio parla dell'IMU, di come cambierà la tassa e ci sarà la nuova service tax per i più abbienti. Ridare l'IMU del 2013 ai comuni, nuova service tax per i più abbienti. L'IMU, dice Del Rio, deve tornare nelle disponibilità dei comuni, dobbiamo garantire ai comuni una completa autonomia fino a fine 2013. Poi della service tax se ne parlerà anche nella legge di stabilità. Vediamo se c'è qualche altro dettaglio tra un attimo. Ernesto da Roma, buonasera. Buonasera dottore, a lei e agli ascoltatori. Pronto, prego. Mi sente? Sentiamo forte e chiaro, prego. Allora, guardi, a proposito della gita in barca di Berlusconi e della fumata nera a Fanoletta, volevo dire che non capisco perché, se Fedele Confalonieri è il legale rappresentante di Mediaset ed è stato assolto, perché invece è stato condannato Silvio Berlusconi. Mi sembra un chiaro errore giudiziario che si è perpetrato nei tre gradi di giudizio. Io non credo nel complotto dei giudici, ma penso che sia un errore, e quindi per evitare che questo errore porti a disastrose conseguenze per tutta la nazione con la caduta del governo, bisognerebbe che il Presidente della Repubblica commutasse la pena da pena detentiva a pena amministrativa, facendo decadere l'interdizione dai pubblici uffici e tutto il resto appresso. Io credo che sarebbe una soluzione equa, più della grazia, una commutazione. Tanto la grazia Berlusconi non la chiederà mai. Che ne pensa lei? Ernesto, grazie. Intanto dovremmo avere recuperato Luigi Amicone. Buonasera, ci siamo? C'è? Ci sei? Ci sono. Eccolo qua. Hai avuto, credo, un problema con la batteria del cellulare. Eravamo Mi è morto all'improvviso. Adesso abbiamo un po' di autonomia. Riusciamo a finire l'intervista? Sì, è attaccato sì. Alla corrente. Quindi speriamo che non succeda nulla. Per chiudere sul capitolo con cui avevamo aperto, la vostra raccolta di firme, riepilogo, perché magari gli ascoltatori non sono più gli stessi di prima, contro il disegno di legge sull'omofobia, perché voi dite si rischia di inserire una sorta di reato d'opinione. Io stavo leggendo nella legge il concetto di superiorità e dicevo non è un concetto di preferenza, cioè io preferisco gli eterosessuali ai gay e nessuno, questa legge non mi tocca. Se io però dico che in quanto eterosessuale sono migliore di un gay, allora la legge mi tocca. È questo il punto o no? Sì, ma ci rendiamo conto, ti rendi conto che anche se fosse questo, dire che mi tocca una legge perché io dico che sono migliore sì. è roba da 1 a 6 anni di reclusione, ma è roba da matti. Le biglietti vanno battute con le idee giuste. Non sentiamo benissimo, abbiamo capito la risposta, Amicone, però non è che si senta molto bene la linea, non lo so se Vogliamo provare a qualche altro ponte, qualche altro spostamento? Adesso è in linea con la redazione, vediamo, perché così certo l'intervista non la possiamo mica finire, perché si sentiva a malapena. Allora, riprendiamo intanto un ascoltatore e poi vediamo se riusciamo a trasferire Amicone in un punto dove si sente meglio. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera. Tanti saluti a lei e agli ascoltatori. Il mio problema, io sono un uomo di 77 anni, vissuto per 20 anni in quest'era berlusconiana, di cui ho tutte le ferite per tutte le leggi ad personam, i vari lodi e tutte queste schifezze che ci hanno accompagnato per tutto questo periodo. Adesso mi domandavo soltanto una cosa, ma è una querela all'italiana questa sulla incandidabilità, ma se è stato condannato Berlusconi, poverino, e stanno decidendo anche sulla decadenza dai pubblici uffici per un anno, ma a questo punto mi pare che è tutto automatico, e il buon Violante che adesso se ne esce fuori dicendo che Berlusconi ha diritto come ognuno alla sua difesa, ma perché l'abbiamo tenuto forse nelle segrete del castello fino adesso? Non ha potuto difendersi con tutta la pletora di avvocati che paghiamo anche noi. No, beh, gli avvocati li paga suo, li paga lui, poi quando sì, nel ruolo di parlamentari li paghiamo anche noi. Grazie Massimo, abbiamo recuperato Amicone, forse. Sì, sono qua. Ecco, adesso ti sentiamo meglio. Tra l'altro Berlusconi ha rilasciato proprio a voi di tempi, no? Un'intervista, credo la prima, un po' approfondita dopo questa baraonda. Cosa ha detto che si possa anticipare prima della pubblicazione? Lui ha detto, bene, in realtà noi l'abbiamo anche anticipata oggi al meeting. Allora, in sostanza è questo, che quando due amici sono in barca, se uno dei due lo butta giù, è che la barca sbanda. È chiaro che PDL e PD non è che sono amici nel senso figurato, comunque è una scelta di amicizia, di collaborazione politica, quella di governare insieme. Sì, ora, questo sì. Al di là del che uno ritenga giusto o sbagliata la sentenza di Berlusconi, su Berlusconi, è evidente che se tu sei con un altro che dice no, tu non mi vai bene più, non puoi pensare che la barca su cui stai insieme navighi con tutte e due, con uno appeso, buttato fuori, no? Insomma, è un fatto che se Berlusconi non si trova il modo di, come dire, guardare con attenzione se vi sono, come dicono costituzionalisti illustri, le condizioni per cui non è necessario farlo cadere in fretta e furia, ma si possono esaminare diciamo anche priorità di tipo interesse del paese, sì, eccetera eccetera. Comunque, lui in sostanza dice, io non è che vado a chiedere la grazia, io non reputo la sentenza ingiusta, credo che combatterò fino alla fine, e quindi punto. Però non dice nulla sul governo, non fa nessuna minaccia, nessun ricatto, sì, dice, difende la sua posizione e dice, chiaro, che se sparano a me non è che possono pretendere che gli altri dicano sì, beh, lasciamo il morto per strada e andiamo avanti. Ora però, al di là di poi di come gli italiani la pensino su questo, sul tema della persecuzione, dell'accanimento quantomeno giudiziario che ci può essere stato su Berlusconi in questi anni, di processi ce ne sono stati tanti, certo. Però in questi giorni abbiamo sentito anche usare delle espressioni, fra l'altro anche da te, un po' curiose. Per esempio Guzzanti sul Giornale ha scritto che Berlusconi ha paragonato Berlusconi a Gramsci e il PD a quel Mussolini che perseguitava Gramsci in carcere dicendo deve smettere di parlare. Ora Berlusconi può darsi che sia stato perseguitato dalla magistratura, però certo paragonarlo a Gramsci che era in carcere quando c'era un regime contro di lui, tra l'altro, sembra un po' forte. E il paragone l'hai fatto anche tu con Che Guevara, Berlusconi come Che Guevara. Infatti io sono responsabile. Era per ridere. Ma era una battuta, però che ha un valore, cioè è indubbio che diciamo che nel popolo del centrodestra, no, appunto in tutta la vicenda giudiziaria, che per il, sì, il popolo del centro-sinistra risulta una cosa schiaccia, rappresenta un simbolo di una lotta contro un diciamo, un apparato che è schierato, che sarebbe schierato contro il centrodestra. In questo senso ci sta. Mm. È un simbolo di libertà, di rivoluzione contro un sistema. Però ecco una cosa, secondo me una cosa non ci sta invece, il fatto che Berlusconi ha avuto la maggioranza in Parlamento per cambiarlo questo sistema, e questo era nelle aspettative di molti italiani che tra l'altro l'hanno votato e che forse poi qualche voto si è anche perso per strada, perché c'è anche questo in questa certo. situazione, cioè il fallimento di un tentativo di cambiare il sistema dal di dentro, avendo la maggioranza in Parlamento. Sono assolutamente d'accordo, infatti questo è il rimprovero più giusto e legittimo da fare, anche se, ricordiamoci, cioè partiamo dall'esperienza, io negli ultimi 20 anni non vedo nessun governo che poi riesca a mettere mano sul serio a qualche cosa che si annida profondamente nello Stato, che si mette di traverso e scatta, per cui una resistenza di settori burocratici, non so come dire, non solo la magistratura, c'è qualcosa nello Stato italiano che si oppone al fondo alla sua modifica, alla sua riforma. In questo senso, nel 2008, quando Berlusconi aveva preso quella larghissima maggioranza, doveva cercare di andarci fino in fondo. E lì è stato un suo limite assoluto da rimproverargli, e poi il limite anche dei suoi alleati, perché da Fini a Casini non è che si sono mostrati diciamo gente decisa anche loro a cambiare, a fare riforme, no? Sì. Però ognuno si sceglie i suoi alleati, quindi quando uno si sceglie i suoi alleati e poi non ti collaborano è sempre colpa tua. Senti amicone, un'ultima cosa, visto che gli attacchi di Grillo, no? A comunione e fatturazione, cioè un tema che ritorna tutte le volte, non vi fa né caldo né freddo, oppure cosa vuoi rispondere? Ma io rispondo che Grillo deve venire qui al meeting e vedere. E deve ricordare come sarebbe accolto Grillo al meeting, a parte queste parole che ha detto. È possibile che sia accolto bene? Sì, secondo me è accolto con simpatia, anche se uno non gli dà il voto. La gente qui è un luogo, ecco, la cosa bella del meeting è un posto non settario. Tu non troverai né boia né meno male che Silvio c'è, capisci? Cioè estremismi non ne trovi. Quindi Grillo potrebbe venire lì al meeting ed essere accolto anche magari con una standing ovation, perché comunque è un uomo che dice quello che pensa, questo è già un vantaggio. È un costo più che altro, quello che non deve fare, e gliel'ho scritto, che non puoi giocare con due tavolette, cioè fare il comico relativizzando tutti gli altri, prendendo per il culo, e non prendere per il culo anche un po' te stesso, che sei passato dalla condizione di uno che era un uomo libero di fare satira, adesso stai conducendo un partito e la satira la fai per avere consenso politico, e quindi è una satira che non è più completamente libera. Questa sul meeting non è libera, perché è una satira che ripete, fra parentesi, degli editoriali, non so, del Fatto Quotidiano, piuttosto che Tempi Addietro, del Manifesto, no? Quindi lui dovrebbe liberarsi anche lui se vuole fare un cambiamento, deve liberarsi da degli schemi. Visto che tu lui. Qualche entratura ce l'hai, fatelo, un invito a Grillo, così risolviamo il problema e vediamo cosa ne viene fuori. Va bene, vi devo salutare adesso veramente, perché ho un incontro in questo momento. Va bene, grazie Luigi Amicone, direttore di Tempi. And now the good news. Chiara Caielli, una laurea in scienze della comunicazione e un lavoro part-time con scarse prospettive, non si è data per vinta e si è inventata un lavoro. Oggi fa la dog stitchera, cucina dolcetti e biscotti per cani, e la sua iniziativa sta avendo un grande successo. Merita 3 zampe Michelin. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. Adesso introduciamo un altro argomento, perché leggiamo sui giornali di oggi: l'arte di far pagare il doppio i bagarini anche al museo, turisti saltano la coda, il direttore degli Uffizi è un mercato indegno di un paese civile. E allora noi lo abbiamo convocato, Antonio Natali, il direttore della Galleria degli Uffizi, che tra l'altro è il terzo museo più visitato d'Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, posso fare un inciso? Sì. Perché dice il terzo? Non lo so, perché leggo sui giornali Colosseo, scavi di Pompei e poi Galleria degli Uffizi. Certo, quelli non sono musei, però. Gli altri non sono musei. Non sono musei, lo so, perché quando si parla con voi bisogna usare parole giuste, sennò vi arrabbiate subito. Come possiamo dire? Il museo più visitato d'Italia. Il museo più visitato, il terzo sito, non so come dire, più visitato? No, no, era uno scherzo il mio. Era uno scherzo, vabbè, però è giusto precisare, il museo più visitato d'Italia. Che succede? Che... stando in coda i turisti alla Galleria degli Uffizi si trovano a fianco delle signorine vestite di giallo che offrono la possibilità di pagando di più di saltare la coda. Sì, questo appunto è quello che abbiamo sperimentato. Non credo siano soltanto signorine vestite di giallo, ma ora mi sembra che i ranghi si stiano naturalmente allargando. Sì. Io è molto che seguo questa vicenda, sì, che ora ha fatto scattare un quotidiano fiorentino, e francamente lo ringrazio, perché perlomeno c'è una visibilità maggiore. Non mi sembra appunto che sia decoroso per un museo statale di questa importanza, per la città, sì, e per il paese tutto, insomma, questo mercato del biglietto per dare, concedere prestazioni che poi alla fine servono soprattutto per aumentare il prezzo del biglietto. La cosa in sé non darebbe fastidio, sì, se non fosse appunto una di quelle situazioni in cui davvero il popolo straniero vede davvero una civiltà diversa da noi. A me sembra no, tra che l'altro, noi accampiamo sempre sì, dei privilegi di nobiltà antica, mi sembra che qui davvero siamo sotto i parametri invece del quinto mondo. C'è da dire però che questa cosa qua è autorizzata dalla sovrintendenza? No. Allora, ho letto male sul giornale, è autorizzata da qualcuno, autorizzata perché loro hanno una concessione. Anzi, il sovrintendente ha fatto ha chiesto delle vere e proprie indagini per verificare, sì, di tutto questo la legittimità e anche la legalità. Le risposte che ci sono venute, me l'ha detto appunto il sovrintendente Cristina Cedini, le risposte che ci sono venute sono che alla fine non c'è crimen, insomma, non c'è dolo. Allora, ma non c'è dolo, ma scusi, ma questi sono autorizzati o no da qualcuno? Hanno una concessione per poter fare questa cosa? Ma io presumo di sì. Perché se no sono dei veri e propri bagarini, come quelli dello stadio dove sì, appunto... Se non hanno fatto niente, evidentemente presumo di sì. E chi può avergliela data però questa concessione, se non la sovrintendenza? Sono concessioni che vengono date da istituti amministrativi che possono essere cittadini, provinciali, regionali, non lo so, fatto sia però che se lei vuole fare una battaglia chiesto contro bisogna saperlo, perché bisogna prendere di mira chi è che ha messo... Comunque il problema è un altro, lei sa che la sovrintendenza è una struttura piramidale in cui ogni museo fa capo poi alla sovrintendenza, la sovrintendenza ha gli istituti, agli uffici amministrativi e tramite gli amministrativi, perché poi alla fine sono lo storico dell'arte, devo semplicemente sollevare il problema chiedendo che sia una risoluzione. La risoluzione vedo che non arriva e allora ho colto pretesto questa indagine fatta da un quotidiano fiorentino, sì, per dire vediamo se io vado per esempio a Campo di Marte quando c'è una partita importante della Fiorentina, sì, e acquisto dei biglietti e li vendo, perlomeno se vengo portato dopo in caserma mi spiegheranno la grande differenza che c'è, io può darsi non la conosca, fra me che faccio il bagarino e loro che danno i biglietti. Può darsi che ci sia. D'altra parte ho sentito dire che ci sono delle rimostranze, perché naturalmente questo sarebbe un modo per risolvere la fila. Io le chiederei proprio un minuto per chiarire questa cosa, sì, della fila. Cioè nel senso che non è questo secondo lei il pretesto per cui... No, perché... certo che sì. Certo, questo è la giustificazione anche comprensibile. Quello però che dico io, sì, non si può incolpare un museo che ha una fila perché dice così facendo sono loro che sono artefici poi di queste forme di risoluzione così. Cioè lei pensa che qualcuno potrebbe pensare, qualcuno di questi turisti, c'è la coda magari creata ad arte per far pagare no, di no, più poi no, con questo sistema. Mi sono spiegato male, allora non questo. Sì. penso che all'interno della ma questo città, potrebbe pensarlo il turista preso... guardi, perché lei ha descritto giustamente il turista straniero disorientato di fronte ai mille biglietti, alle mille pratiche, alle mille possibilità assurde che ci sono in Italia, che disorientano, e uno potrebbe pensare anche questo, e lei giustamente vuole chiarirlo. Anche delle lettere in cui naturalmente si depreca quello che avviene, e io tutte le volte scrivo con i tramite i colleghi, mando immediatamente in risposta delle mail in cui spiego qual è la situazione. No, ma io mi riferivo più che altro a quello che è stato detto anche qui in città. Se ci fosse meno fila, queste cose non ci sarebbero. Allora io vorrei chiarire anche. Beh, ma se è il museo più visitato d'Italia, ci sarà sempre la fila, a meno che non mettiamo un'autostrada a quattro corsie, è chiaro. Che è un luogo ambito alla fila. Ma quello che la gente fa finta di non sapere, oppure non sa proprio, anche se noi l'abbiamo ripetuto migliaia di volte, è che un numero di un museo, di visitatori in un museo, è come dire, controllato fin dall'ingresso, perché più di 900 persone, per esempio, agli Uffizi, contemporaneamente non ci possono stare. E vabbè, queste sono misure strutturali, non ci si può fare nulla. Della sicurezza. Senta, ma lei, per esempio, al ministro Brai, si sentirebbe di dire qualcosa, per esempio, per garantire una regia unica di tutta questa miriade di comportamenti nei vari siti italiani che creano appunto questo sconcerto, come lì da voi? Pronto? Sì, no, era andata via per un momento la comunicazione. Sì. Io al ministro Brai, che conoscerei volentieri, perché le cose che ha fatto mi paiono finalmente importanti davvero per il nostro ministero. Sta andando bene i primi passi che ha mosso? A me pare di sì. Detto dal direttore del primo museo d'Italia... a me pare di sì. E anche le questioni che ci sono sorte ultimamente, anche con i direttori dei musei, mi sembra che le abbia risolte brillantemente e con uno spirito anche, come dire, di umanità. E per questa cosa qua degli Uffizi? Com'è? E per questa cosa qua degli Uffizi cosa gli direbbe? Questo, naturalmente, le ripeto, la cosa riguarda soprattutto il soprintendente. Io mi faccio presente questa situazione e mi metto a disposizione per qualsiasi soluzione. D'altronde oggi ho visto che il soprintendente, che non è a Firenze in questo momento, ha fatto un comunicato in cui decisamente chiede che vengano interrotte tutte queste polemiche, e ha ragione, ci si metta tutti a un tavolo, soprintendenza, comune e varie amministrazioni, per vedere come si possa risolvere la situazione. Di certo le file in un luogo ambito ci sono comunque, ci saranno sempre. Senta, Natali, cosa ne pensa invece della questione, visto che parliamo con il direttore del primo museo, lo ripetiamo, d'Italia, gli Uffizi, della questione del Colosseo, cioè dell'affidamento? Lei li vorrebbe 25 milioni di euro per risistemare gli Uffizi così, da un privato, in cambio di un po' di visibilità? Così in astratto dovrei dire immediatamente di sì, perché io lavoro con i privati, ho restaurato la tribuna, che è il più importante luogo degli Uffizi, lo scrigno, il cuore pulsante antico 1584 voluto da Francesco I, ho avuto $1 milioni dai Friends of Florence e naturalmente ho dimostrato a loro tutta la mia gratitudine. Ma anche in qualche forma pratica? La grande sala della Niobe e addirittura per la loggia dell'Anzi. Più gli amici degli Uffizi. Gli ha espresso la sua... Scusi, io lavoro con i privati. Sì, Natali, scusi un attimo. Natali, come vengono fatte le cose. Natali, scusi un attimo, ma gli ha espresso gratitudine, ma anche in una forma visibile per loro? Perché certo, Della Valle chiede, per esempio... C'è un pannello fuori della porta, dove sono addirittura non solo ringraziati, nominati, cioè, ma secondo lei dei più importanti mecenati. Le richieste che fa Della Valle al Colosseo sono eccessive? Sfruttare, creare un marchio del Colosseo gestito da lui e, come dice, poter sfruttare i diritti di pubblicità del restauro, è troppo o è giusto secondo lei? Perché il Codacons ha fatto un ricorso. In una maniera che potrà sembrare una fuga, ma io non tratto mai questioni che non conosco perfettamente, anche perché in Italia si parla con troppa approssimazione di questi problemi. Lei avrà sentito parlare ovviamente di risorse. Quanti parlano del patrimonio italiano come di una risorsa? Va bene, amico. Natale, non si vuole sbilanciare, del resto non è cosa sua il Colosseo, noi ci abbiamo provato perché siete in concorrenza, ma poteva essere interessante una sua opinione. Grazie, buona estate, buona serata. And now, the good news! Ferrara, l'ex caserma dei Vigili del Fuoco abbandonata, è diventata Spazio Grisù, la prima factory creativa dell'Emilia-Romagna. Uno spazio di 4.000 metri quadri che era destinato al degrado, oggi ospita gratuitamente una ventina tra start-up, imprese e laboratori creativi. Come dicono loro stessi, tutti quei mestieri che la mamma non riesce a capire. Tra un attimo riprendiamo con i vostri interventi. Se volete interagire in diretta, il nostro account su Twitter è @sipofare24, il mio @AleMaurizzi. Qualche tweet a commento di quello che abbiamo fatto fino adesso, di quello che abbiamo sentito. C'è Libra77 che ci chiede: ma la service tax verrà pagata anche da chi è in affitto? Perché Del Rio poco fa ha annunciato che ci sarà una nuova tassa, la service tax al posto dell'IMU, e però dice sì, anche dagli affittuari, non solo dai proprietari di casa. Questo però è tutto da capire e da vedere. Poi c'è Luca Tosco Romano che dice: avvisate Amicone che siamo l'unico paese del G8 senza unioni gay, vogliamo entrare in Europa e uscire dal Medioevo, sì o no? Non lo so se siamo l'unico paese del G8 senza unioni gay, la Russia fa parte del G8, perché lì le unioni gay sicuramente non ci sono, non lo so. Comunque questo era un commento all'intervista di Amicone, che tra l'altro il direttore di Tempi parlava di questo spettacolo nel quale i gay facevano una terapia per curarsi, una vecchia idea forse di una parte degli italiani o del clero, che così identifica come una malattia da curare l'omosessualità. 800 24 00 24, diciamo tra poco con i vostri interventi, adesso però titoli del TG3. Berlusconi: nessuno mi può togliere la parola nella leadership del centrodestra. Alfano: il Partito Democratico non voti in modo pregiudiziale contro Silvio. Dura la replica del PD. Franceschini: basta minacce, la legalità non si baratta. Grillo: subito elezioni e ora vuole il porcellum. Con questa legge, dice, vinciamo noi. Dopo il vertice con Alfano, Letta sale al Quirinale per informare Napolitano. Si cerca uno spiraglio per tenere aperto il dialogo. Il ministro Lupi ospite al TG3. Polemica sulla proposta di Alfano. Il vitto degli immigrati in carcere lo paghino i paesi di provenienza. Il PD: un'illusione pensare che arrivino quei soldi. Rifare i CIE. Borsa in attivo dopo il tonfo dei giorni scorsi. Migliora l'economia nei paesi OCSE, ma l'Italia è in ritardo e il governo al lavoro per definire l'IMU. Nuovi raid contro i ribelli in Siria e nuove immagini shock del presunto attacco con i gas di ieri. Damasco nega, la Francia all'ONU chiede un intervento. E dopo la condanna a 35 anni per aver passato documenti a Wikileaks, il soldato Manning scrive a un giornale: mi sento donna, chiamatemi Chelsea. Poi ci siamo innamorati e da quando c'è l'amore, grandi amici siamo noi. Il Popolo della Libertà non chiede al Partito Democratico un gesto e un voto a favore del presidente Berlusconi, però con altrettanta forza noi diciamo che chiediamo al Partito Democratico di non dare un voto contra personam, contro il loro avversario di sempre, contro il loro nemico storico. Un libro nuovo che mai finirà. Nessuno ci farà cambiare idea, nessuno ci può tirare per la giacchetta, faremo le cose con serietà, con onestà, con rigore. Nell'incontro con tutti i volontari e tutti a dirmi: teniamo ferma la nostra linea. Confermo, come ho avuto modo di dire a più riprese, che questa è e resterà la linea del Partito Democratico. Anche stasera una scelta strepitosa della redazione, Riccardo Poli, Riccardo Buccero sulla musica. Due nemici innamorati, Celentano Mori, credo del 1970. I due nemici innamorati sono Letta e Alfano, o Letta e Epifani se preferite, Alfano e Epifani se preferite. Siete voi che volete far cadere il governo, dice Alfano al PD, se votate contro Berlusconi. No, dice Epifani, siete voi che ci state ricattando. Invece questa è la versione di Beppe Grillo, è tutta una farsa. Siamo competenti, perfetti, onesti, trasparenti, hanno una paura fottuta. Quindi adesso stiamo quasi per arrivare alla scena finale del film Le Iene, quando i gangster si sparano, PDL, PD meno L ha fatto questo inciuccione cercando di dare la colpa a me, a noi che dicevamo di no a questa farsa che hanno fatto, in fondo volevano solo dei voti in più per avere la maggioranza e governare sempre a loro piacimento senza di noi. C'è anche la lettera di alcuni parlamentari del PD all'ambasciatore, niente proprio di meno che degli Stati Uniti in Italia, una lettera curiosa per non dire di più, per non dire di peggio. Fermate il nuovo Monopoli, inneggia la finanza irresponsabile, perché la nuova versione del Monopoli, anziché basarsi sulla compravendita di case, si basa sulla compravendita di pacchetti azionari. Questi parlamentari del PD, Michele Ansaldi, Berlingheri, Biffoni, Bobba, Bonaccorsi, Gelli, e Magorno, chiedono all'ambasciatore americano di far ritirare, credo in Italia almeno, il gioco del Monopoli, perché inneggia alla finanza irresponsabile. Ma è un gioco, ragazzi, è un gioco però. Vabbè, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Adesso invece è il momento del nostro punto di vista strambo di questa sera. E oggi abbiamo voluto scommettere su un barista che va controcorrente, perché è notizia di oggi che in Italia negli ultimi mesi c'è stato un vero e proprio boom di slot machine in tutti i bar italiani, più 91% proprio di macchinette. Poi ci sono tutte le cifre più in tutti i settori, ma basta guardarsi intorno alle nostre città per capire che le slot house, ma anche le slot machine dentro i bar, stanno proliferando. Non so come la pensate voi, a me non è che faccia proprio piacere essere circondato da luoghi di quel tipo, tra l'altro spesso con queste vetrate scure non si vede quello che c'è dentro, e poi che tipo di economia c'è dietro. Qualcuno dice addirittura l'economia criminale, ma al di là di questo non è un'economia molto sensata e produttiva sicuramente. Ma al di là di come la pensiamo noi, abbiamo convocato Giuseppe Stallone, barista di Milano, del bar Persefone. Buonasera. Buonasera a voi tutti, radioascoltatori. Che da anni ha fatto una scelta controtendenza, rinunciando a bei soldini. Lei la slot machine l'ha tolta dal suo bar quando? Beh, io le ho tolte già da un po' di tempo, in tempi ancora non sospetti, perché diciamo che sono stato la prima persona che ha capito, secondo me un modesto parere, che questo era un gioco che effettivamente crea devastazione e impoverimento alle famiglie. Perché lei vedeva proprio gente nel suo bar, da qualche parte ho letto, forse l'aveva detto anche a noi in un'altra intervista, un ragazzo che si è giocato il primo stipendio. Sì, ma come lui tante altre persone che giocavano interrottamente per ore e ore senza la solita macchinetta, nella speranza di vincere tanto quanto avevano messo. Perché dentro. Si parla di questo fenomeno della ludopatia, cioè della gente che non riesce a controllarsi nel gioco. Poi si sente dire in giro, beh, ma se uno gioca sono fatti suoi. Vero, sicuramente è una scelta. Però se io per giocare vado in un casinò, in un luogo X, sapendo quello che faccio, forse è un conto. Se io la slot machine ce l'ho da tutte le parti e la tentazione è molto più grossa, probabilmente. Lei crede in questo fenomeno della ludopatia? Esiste? Beh, diciamo che in letteratura medica la ludopatia da gioco d'azzardo è qualcosa di nuovo. Prima non si conosceva questa forma di dipendenza da gioco, ma effettivamente è una vera e propria malattia, è una piaga sociale che ci affligge e che continua interrottamente a progredire. Lei, appunto, io non sono contro il gioco, contro il gioco, perché dal punto di vista sociologico, certo. Ecco, il gioco, sono contro questa forma di gioco che poi è un gioco. Il gioco è, tra l'altro, la parola gioco è una parola che si associa al divertimento. Io non credo che ci sia molto da divertirsi stando davanti a una macchinetta inserendo monetine. Io ho visto gente monetine, veramente con atti sì, compulsivi schiacciare quel pulsante, cioè il gioco è un'altra cosa, è una cosa divertente, è tutt'altro. Però lei, che per far questo, perché sembra una stupidaggine, però lei ha un bar come tanti, ci si sveglia la mattina presto, si chiude la sera tardi, si fa fatica a stare insieme con i familiari perché uno è sempre dentro il bar. Tutto è sacrificio, il lavoro è sacrificio, però io dal punto di vista etico e morale non mi sentivo più nelle condizioni, sì, di dover contribuire a questa devastazione. Però per dire, non è una passeggiata, lei quanto ci ha perso? Perché... Ma io diciamo che sono perso nulla, perché prima di conoscere questo fenomeno non ne facevo altrettanto, almeno. Beh, chiaro, da quando poi ho iniziato ad avere anch'io queste slot machine, guadagnavo da 2.000-2.500 euro al mese, che oggi in più. Diciamo che sono molto importanti in un periodo difficile. Cioè, un bar, diciamo, normale come il suo, medio credo che sia un bar... Sì, un bar... Lei è orgoglioso, lei magari ha un bar grande, però insomma un bel bar in Viale Jenner, se non ricordo male, a Milano, quindi in una zona semicentrale, ma non centralissima, rinuncia, cioè con una slot machine può tirar su fino a 2.500 euro al mese. No, con una slot machine, con un paio di slot machine, con un'affluenza di giocatori costante, si possono raggiungere anche cifre molto più alte. Capite, ascoltatori, che affare che è questo qua? Perché insomma, uno senza far niente, poi deve pagare la concessione, non so come funziona. C'è una concessione che pagate in proporzione alla vincita? No, noi non abbiamo nessun tipo di concessione, tipo di emolumento da pagare a nessuno. Il gestore che ha queste slot machine autorizzate, credo, dallo Stato, dal monopolio, penso che paghi qualcosa. E noi lei l'ha tolta, quindi è chiaro, però insomma si rinuncia a un guadagno non indifferente. Lei cosa pensa oggi, che ha fatto questa scelta, dei suoi colleghi che invece vanno avanti così per la loro strada, magari senza pensarci, senza rifletterci, oppure si fanno i conti alla fine del mese? Ognuno di noi debba contribuire e aderire a questo fenomeno, per combattere questo fenomeno. Poi capisce che io non faccio il giudice di nessuno, non critico nessuno, penso che sia una nostra libera scelta decidere se toglierle o meno, ma questo non voglio criticare i miei colleghi esercenti nel dire toglietele, perché bisogna comunque combattere questo fenomeno sotto altre forme, col controllo diretto del giocatore accanito, per cui così come lo Stato ci controlla i conti correnti, tutto ciò che noi spendiamo, bisogna che il giocatore venga comunque segnalato al momento in cui gioca, ed eventualmente nel prossimo futuro che gli si impedisse di giocare continuamente, perché non si riesce a capire come un giocatore accanito possa comunque permettersi di stare 3, 4, 5 ore su una macchinetta spendendo dei soldi. Si fa presto, si sono sentite storie di gente che si è fatta il mutuo o cose di questo genere. Lei comunque adesso va la sera a letto molto più tranquillo, da questo punto di vista si è tolto un peso, no? È così? Beh, un peso lo è ancora, perché non abbiamo ancora terminato di contribuire spontaneamente e gratuitamente. Perché lei ne sta facendo anche una sua battaglia in qualche modo. È una battaglia che accomuna un po' tutti, perché in una società fragile e confusa bisogna comunque sempre mettersi in gioco e far sì che questo fenomeno proprio del gioco d'azzardo, perché è un proprio vero gioco d'azzardo. Cioè, e comunque mi diceva che anche le persone che frequentano il suo bar hanno avuto una reazione a questa sua decisione positiva, cioè parlandone magari. Dal punto di vista morale, sì, la reazione c'è stata, anche perché molti hanno aderito poi a queste nostre campagne anti-slot. Diciamo che molte situazioni si sono create a livello nazionale, c'è chi sta comunque... Vabbè, c'è tutto un movimento che sta... Sì, ci sono delle regioni, comuni che si stanno muovendo su questo. Va bene, grazie intanto per essere stato con noi, a Giuseppe Stallone, nel bar Persefone di Milano, uno dei primi ad aver tolto la slot machine all'interno del suo locale. And now, the good news! Per la prima volta un progetto italiano è stato premiato al Solar Decathlon, le Olimpiadi dell'architettura sostenibile. Si tratta di Made in Italy, una casa ideata dai ragazzi delle università di Roma e Bolzano che produce il triplo dell'energia che consuma, sfruttando unicamente i pannelli fotovoltaici. D'altra parte, Kist è un paese do sole. Chi ha detto che la passione si può solo sentire? Chi l'ha detto? Radio24.it, il nuovo sito di Radio 24 che accende il web con l'attualità, la politica, le curiosità e le notizie in tempo reale. Per un'informazione che va oltre la radio. Radio24.it. la passione accende il web. Se sei un'azienda e cerchi agenti, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Se cerchi agenti di commercio, vai su agenti.it. www.agenti.it. Oh yeah! La più grande stagione di calcio è solo su Sky, tutta in diretta e anche in HD. Tutta la Serie A, la Bundesliga in esclusiva, l'Europa League con Fox Sports, i migliori campionati europei come la Premier League e la Liga. Abbonati entro il 29 settembre. Sky Calcio, Fox Sports, l'intrattenimento di Sky TV con tutti i canali Fox e Sky Go a soli 29 euro al mese, prezzo bloccato per 12 mesi. E tutte le partite della FIFA World Cup sono incluse. Chiamaci 02 50 50 o vieni su grandesport.it. Borse in diretta. Bentrovati a Wall Street. Il Dow Jones sale in questo istante dello 0,34%, mentre non c'è un aggiornamento sul Nasdaq, che comunque è stato positivo fino a poco fa. C'è un aggiornamento perché la società che controlla il listino tecnologico di New York ha annunciato di aver fermato per un problema tecnico tutti gli scambi sul mercato azionario e delle opzioni. Il blocco è scattato alle 12:22, le nostre 18:30 circa, e resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Le cause della sospensione e l'origine dei problemi tecnici del Nasdaq non sono ancora chiari, ma l'episodio, scrive il Wall Street Journal, solleva dubbi sulla solidità del sistema di trading americano. Veniamo all'Europa. Oggi giornata di recupero per i listini del vecchio continente. I mercati che nei giorni scorsi avevano guardato con nervosismo la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, oggi più che alle notizie provenienti dagli USA hanno reagito alla pubblicazione degli indici manifatturieri di Cina ed Europa, da cui emerge una decisa ripresa. E così Londra guadagnato lo 0,88%, Parigi l'1,10%, Francoforte salita dell'1,36%. Ancora meglio ha fatto Milano, il FTSE MIB ha guadagnato il 2,56%, l'All Share il 2,39%. Miglior titolo oggi a Piazza Affari è stato Finmeccanica, più 6,30% sulle nuove indiscrezioni relative alla possibile vendita di Ansaldo. Segue la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, più 5,07%, Fiat Industrial che ha guadagnato il 4,87%. Unico titolo negativo oggi, quindi il peggiore, è stato Telecom Italia, meno 0,59, a seguire G-Tech più 0,18, Eterna più 0,30%. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso in calo a 239 punti base, con il tasso sul decennale sceso al 4,30%. Non ci restano che i cambi, euro su dollaro a 1,33,56. È tutto, la borsa torna alle 20:30. Il mercato libero, l'operatore giusto, la DSL, l'assicurazione più economica. Tuffarsi fra offerte e promozioni è come trovarsi sperduti in mezzo all'oceano. Radio24.it, in collaborazione con sostariffe.it, ti lancia un salvagente per salvarti in questo mare di offerte. Uno strumento di comparazione gratuita e indipendente che permette di individuare la tariffa più adatta e più conveniente in base alle proprie esigenze. Vai su radio24.it e scopri come. La Tucker Film presenta Isabelle Huppert. Oh, mi scusi, mi sa dire dov'è il faro? Non voglio. Una commedia balneare di Hong Sang-soo. Tu sei la bellissima donna francese che io ho sempre sognato. Dici sul serio? In Another Country, dal 22 agosto al cinema. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ho un po' di messaggi al 349-238-6666, ma se la finissimo di fare gli ipocriti, scrive Peter da Trento, le slot fanno incassare allo Stato italiano svariati miliardi di euro. Quindi il gioco è dannoso, rendiamo le slot illegali e stop. E fosse così facile, sarebbe più facile. Poi c'è chi dice, ma il barista vende alcolici? Perché? Che vuol dire? Sì, l'importante è che non ci sia una fila di alcolizzati davanti alla porta del locale. Questo è lo stesso discorso che vale per le slot. Invece su Twitter il nostro account, lo ricordo, è @sipofare24. Luca Tosco Romano precisa, dice: sì, ha ragione, la Russia è nel G8, siamo in compagnia di chi mandava i gay nei gulag ed è ancora apertamente omofobo. Questo è riferimento all'intervista di Amicone. Poi invece c'è un altro, Saverio Fornillo, che dice: mio cognato ha un bar da 7-8 anni, non ha mai voluto le slot, l'esercizio va a gonfie vele, buon per lui. Daniele da Venezia, buonasera. Sì, buonasera, salve. Prego. Niente, volevo intervenire a proposito della, sì? del, del discorso che è stato fatto oggi, del confronto, del paragone dell'uomo in barca, eccetera, eccetera, dei due amici. Allora, io volevo dire che dicendo così sembra come che l'accordo sia stato fatto tra Letta o tra Epifani e Berlusconi, nel senso che l'accordo politico per il bene cosiddetto del paese è stato fatto tra due forze politiche, che sono una il PDL e uno il PD, per cui non si vede per quale motivo, nel momento in cui Silvio Berlusconi dovesse anche decadere, debba anche decadere l'accordo politico che è stato fatto. Ricordo che ad esempio quando Penati ha avuto dei problemi o ha avuto dei problemi altri esponenti. Vabbè, Penati non è paragonabile a Berlusconi come importanza politica. Però è vero che Berlusconi potrebbe, è vero che Berlusconi potrebbe fare politica da fuori al Parlamento. Potrebbe decadere da senatore se sarà così, per un'oggettività giudiziaria e politica, perché sarà un voto politico, e continuare a fare politica da fuori il Parlamento, come fa Grillo, per esempio, con il Movimento 5 Stelle, potrebbe essere il leader. Su questo, secondo me, il PDL sbaglia dicendo che c'è una menomazione nel partito. A meno che con questo discorso non si legittimi la teoria secondo cui il partito non è, diciamo che il leader del partito non è Berlusconi, ma è il proprietario del partito, per cui facendo cadere quella testa cade tutta l'impalcatura che ci sta dietro. Però mi sembra che francamente questa tiritera che è un pressing politico per cercare grazie Daniele, è un pressing politico per cercare di ottenere il massimo dal punto di vista del centrodestra da questa situazione. Questo sicuramente sì. Gianfranco dalla provincia di Pisa, buonasera. Stavo per mandare la mano in terapia di rieducazione. Perché a forza di stare con la mano ferma... bravo, sono la mano anche usata, mi si era trappita, mi chiedi danni. Può capitare, le attese sono lunghe. Va bene, Gianfranco, sì. Che dobbiamo fare? Senta, buonasera. Sì. Avevo preso l'occasione, perché state parlando di due argomenti che mi stanno appassionando parecchio ultimamente, sì. Specialmente l'argomento Berlusconi. La premessa è che io sono con una persona di pensiero di destra, non sono una persona di pensiero di sinistra. Va bene, fin qua. Segue al fatto che da anni, cioè da quando il signor B è andato al governo della destra, sì. Praticamente ha dato prova disgraziata di tutto quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Uno, quindi praticamente mi ha messo con una grossa parte della destra in conflittualità, come elettore, intendi? No, non ho capito perché è andato in conflittualità da quando c'è Berlusconi, in che senso? Ma diciamo che tutto quello che avrebbe dovuto fare, fondamentalmente non l'ha fatto. Quindi ha fatto cose tutt'altro che quelle che avrebbe dovuto fare e quella che aveva promesso di fare. Cioè lei, quindi, per esempio, da elettore di... Ma lei, per esempio, da elettore di centrodestra, cos'è che avrebbe voluto vedere fatto da Berlusconi? Avrei voluto vedere realizzare, diciamo, determinate innovazioni anche nel settore della politica commerciale, della politica attiva del paese nei confronti degli altri paesi, cosa che è rimasta praticamente statica. E adesso, non Gianfranco? Non è stato fatto assolutamente nulla per dare possibilità effettivamente concreta alle imprese e a chi lavora di poter entrare in gioco nel futuro, cioè siamo arrivati al crollo totale con la convinzione che fossimo un paese ricco che avrebbe potuto continuare a vivere di rendita con la mancanza del lavoro. Va bene, grazie Gianfranco. Andiamo a Francesco che ci chiama da Verona. Buonasera. Sì? Pronto, buonasera. Se abbassa la radio è meglio. Grazie, la passo. Senta, proprio, io purtroppo ero prenotato per il discorso della ludopatia, non so se il mio argomento è ancora guardi, qui si può parlare di tutto. Di tutto, perfetto. Sì. Allora, io volevo dire, visto che ho un'esperienza di gioco di quasi 60 anni, che il gioco è una bellissima cosa, fatto chiaramente in ambiente sicuro, è chiaramente sano anche dal punto di vista di trucco e chiaramente non gestito dallo Stato. Preoccupante, cioè lei dice che c'è il trucco nelle slot a volte? No, nelle slot guardi, in America a Las Vegas c'è scritto su ogni macchina quanto la macchina deve trattenere, in Italia non si sa e abbiamo delle fondazioni con le lobby dei partiti che non pagano neanche le tasse su queste slot machine e questo è veramente abominevole. Ma il trucco c'è anche nei casinò, ormai non si riesce più a vincere da una vita, per cui sconsiglio tutti gli ascoltatori di andare a giocare, però mi dispiace perché questo gioco ormai è diventato una bisca, il biscazziere è proprio lo Stato, è questo che sì, era capricciante. Per cui effettivamente un invito al nuovo governo che Francesco, mettono al bando tutti i bar, tutte le slot machine, tutti i casinò. Francesco, lei ha detto che ha un'esperienza di gioco di 60 anni? 60 anni, io riguardo, io ho vissuto sul gioco. Perché, io andavo, il casinò si perdono 10 lei lavorava al casinò, Francesco? Lei lavorava io gioco solo alla roulette. Ma lei lavorava o giocava? Francesco! Ma è possibile che non si riesce a parlare? Lei lavorava o giocava? Giocavo. Quindi la sua esperienza è da giocatore, ma c'è differenza? L'esperienza è da gambler, certo. C'è differenza tra andare in un casinò a giocare, dove comunque si sta in mezzo agli altri, si gioca alla luce del sole, e invece stare acquattati nell'angolo di una tabaccheria a buttare è monetine? È una differenza enorme, le spiego, perché a casinò si va con amici, quindi si potenziano le relazioni affettive sociali. Poi un bel casinò ti invita a pranzo, ti invita a cena, sei ospite, ti offre l'albergo. Per cui tu hai tutto il massimo. Sei magari un uno spende di anche di più, però quel giorno lì poi non ci torna, anche se poi non è detto, perché sappiamo che c'è la dipendenza anche dai casinò. La ludopatia in tutti i giochi, la roulette forse è quella che ne determina di più, perché è un gioco affascinante, un gioco demoniaco. Ma infatti una volta i casinò non erano tanti, bisognava fare un po' di strada per raggiungerle, secondo me era la cosa migliore, perché c'è poco da fare, la tentazione... Non va proprio incentivata, insomma, se uno la tiene un po' più a bada, male non fa. Grazie Francesco, buona serata. Adesso salutiamo il nostro prossimo ospite, che è l'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Da cosa cominciamo? Intanto da queste aperture, per esempio, del suo partito da parte di Violante. Da parte di Violante, in un'intervista oggi all'Huffington Post, dice: se il PDL chiede un supplemento di istruttoria per Berlusconi, è giusto farla. Lei è d'accordo? Ma Violante non parlava per il PD, lo ha specificato anche nell'intervista a Huffington Post. A me tutto questo dibattito sembra lunare, sembra una cosa marziani. Mm-hmm. Nel senso che Berlusconi è stato condannato in terzo grado, addirittura la Corte di Cassazione ha confermato che tutto il procedimento era regolare, che non c'erano degli errori giuridici. Io credo che una persona con un minimo di senso delle istituzioni e un minimo di amore vero per il suo paese si sarebbe già rimesso. Quindi diciamo che in un paese normale Berlusconi ci avrebbe evitato questo tormentone estivo sulla legge Severino, sulle interpretazioni, eccetera. Poi è evidente che nel momento in cui al Senato si discuterà in un organo che si chiama Giunta, ed è un organo in cui ci sono degli esperti di queste materie. È evidente che, mi meraviglio che Violante abbia avuto il bisogno di ricordarlo, è evidente che sono esperti, leggeranno tutte le varie carte processuali, leggeranno la legge Severino e poi la applicheranno. Ma Berlusconi deve uscire dalla vita politica, appunto. Ma perché Violante fa questi interventi, con lui magari anche altri esponenti? C'è una sorta di... Ora ho sentito solo Violante, che tra l'altro voglio dire. Ma ieri non mi ricordo, Giorgio Tonini, un altro esponente del PD, diceva più o meno la stessa cosa, meno in termini tecnici, perché non è un magistrato, però se c'è bisogno di tempo, prendiamoci questo tempo. C'è una trattativa di sottobanco, non neanche sottobanco, ma insomma anche aperta, sono interviste pubbliche, però dove il problema di fondo è tenere in vita questo governo Letta. Guardi, il problema è che qui c'è una persona condannata in terzo grado, un pregiudicato che tiene in ostaggio tutta l'Italia oltre il governo Letta, e questo si chiama Silvio Berlusconi. Questo è un problema profondamente politico. Però è un problema anche del suo partito, perché è questo... Interpretazione giuridica. Poi né Violante né Tonini fanno parte della giunta competente, dell'organo competente in Senato. Sì. Lì ci sono dei senatori che sono perfettamente in grado di fare il loro compito, senza avere le indicazioni né da Sandro Gozzi né da Violante né da Tonini, quindi lasciamoli lavorare. Questo quindi come si è comportato per esempio il presidente della giunta Stefano, che ha fatto capire che per lui il ricorso in Corte Costituzionale è escluso, i tempi saranno più o meno serrati, ha fatto bene secondo lei a tenere questa linea? Ma secondo me ha fatto benissimo, anche perché lo ha detto nel periodo in cui, nei giorni in cui si parlava di questa questione metafisica dell'agibilità politica. Io non ho ancora capito, è una cosa da marziani, non è da terrestri. L'agibilità politica è una cosa da... Ma che vuol dire? Ma vuol dire, non so, Fabrizio Corona ha avuto qualche problema con la giustizia, sì, credo, no? Sembra, ecco, parliamo dell'agibilità politica di Fabrizio Corona, ma che discorso è? Che dibattito è? Un minimo di separazione dei poteri, un minimo di separazione del lavoro dei magistrati dal lavoro di chi fa politica. Vogliamo ritornare ai fondamentali della democrazia in questo paese o vogliamo veramente sprofondare tutti quanti col cavaliere, che non lo è più cavaliere, tra l'altro. Ma non lo è più? Già non lo è più? Già decaduto? No, ci vuole l'interdizione forse per decadenza. Ah, insomma, rischia di non avere il titolo di cavaliere. Non me ne intendo io di cavalierati, però... Neanch'io. Senta, Gozzi, ma non teme che ci possa essere qualcuno del suo partito che quando ci sarà il voto segreto, perché qualcuno lo chiederà, perché lei continua a dire che è un problema del PDL e apparentemente... È un problema del PDL, però è un problema anche vostro di tenere in piedi il governo Letta, no? Allora, guardi, è un problema... E che ci sia qualcuno tentato di fare questa cosa sembra possibile. Guardi, allora, per rispondere alla sua domanda, uno, è un problema di Berlusconi, ma dato che Berlusconi è il PDL... perché lui stesso ha detto io sono il capo, è un problema automaticamente anche del PDL che non può fare senza capo. Uno. Due, è un problema che Berlusconi, un suo problema che Berlusconi vorrebbe portare a tutti gli italiani, cioè tutti gli italiani dovrebbero subire le conseguenze del problema di un italiano che è di Berlusconi. Il Berlusconi dice, sembra dire, o mi trovate una soluzione perché io sono più uguale davanti alla legge, sono meno uguale davanti alla legge rispetto agli altri italiani perché io sono stato votato da 10 milioni di italiani, quindi rispetto a me la legge va applicata in maniera diversa che rispetto ai cittadini normali, oppure io faccio cadere il governo. Cioè praticamente ci dice Berlusconi mi devo salvare, suicidatevi, perché un partito serio, voglio sperare e pensare che noi siamo ancora un partito serio, dovrebbe o non applicare la legge o violare la legge o trovare un sotterfugio perché c'è un italiano che è stato condannato e non vuole scontare la sua pena. È un partito destinato di nuovo al suicidio collettivo, dato che l'abbiamo già fatto una volta, perché con il mancato voto di Prodi, sì. Abbiamo fatto un bel suicidio collettivo, io voglio pensare, voglio credere... Lei sconsiglia di farne un altro? Sì, perché saremmo al capolinea... Sarebbe un altro suicidio politico votare, assolutamente, sostenere Berlusconi. A quel punto, un minuto dopo, vari di noi direbbero che questo PD, o almeno il gruppo al Senato, è una bad company... che va portata in tribunale per depositare i libri, per dichiarare il fallimento, e dovremmo fare... Quindi di fatto non... Però, sì. Però queste sono delle ipotesi che sono state fatte sulla stampa, io voglio pensare vabbè. Che a nessun senatore venga in mente di fare un'idiozia simile. Quindi di fatto, anche se ci sarà un supplemento di istruttoria su questo caso, il PD comunque, se non vuole implodere, deve votare per la decadenza di Berlusconi, quindi non ci sono da questo punto di vista possibili aperture, insomma, non è possibile. Sono le aperture, perché noi non dobbiamo fare i magistrati, dobbiamo fare i politici, e c'è un problema politico grosso come una casa, anzi grosso come un paese, ed è il problema di una persona, Silvio Berlusconi, che è stato condannato in via definitiva e che ancora non ha capito che qualsiasi uomo politico normale si sarebbe dimesso ancor prima di arrivare a questo stadio. Invece no, lui vuole bloccare Parlamento, Italia, governo. Perché deve continuare una sua lotta personale, deve salvarsi. E capisce che lei, per noi politicamente, questa è una cosa irricevibile. Senta, prima di parlare con lei anche di Renzi, perché lei in un'intervista a cavallo di Ferragosto ha fatto un endorsement per Renzi, lei che è una persona vicina a Romano Prodi, e questo è una cosa da sottolineare. Le volevo fare un'altra domanda, così per stemperare, anche per riderci un po'. C'è una lettera oggi pubblicata, credo, dal Corriere, di alcuni suoi colleghi parlamentari. Contro Monopoli. Cioè è una cosa pazzesca, ma veramente poi la gente dice: ma non c'hanno un tubo da fare. Guardi, io non so neppure chi sono questi sette parlamentari. Glielo dico io. Allora, Michele Anzaldi, Marina Bellingheri, Matteo Biffoni, Luigi Bobba, Lorenza Bonaccorsi, Federico Gelli, Ernesto Magorno, per lo più sconosciuti a parte Bobba, credo. Guardi, ce ne sono vari firmatari che sono persone anche molto in gamba. Mi chiedo che cosa gli sia venuto in testa. Colpo di sole. Archiviamo. Perché tra l'altro vari dei firmatari sono persone anche attive, in gamba, che fanno un buon lavoro parlamentare. Questa storia dei Monopoli però è ridicola, è veramente, è un gioco, insomma, no? E poi comunque cioè, di cosa stiamo parlando? Ma poi voglio dire, ma sì, poi sì. Chi produce Monopoli è una società privata, vai a scrivere all'ambasciatore degli Stati Uniti, cioè veramente, è una francamente, privata che ha sede sì. sociale negli Stati Uniti, ha tolto la prigione per i reati finanziari, insomma, è una cosa... Non ce lo possiamo permettere, sono delle cose che non possiamo proprio permettere in questo momento. Archiviato come proprio colpo di sole estivo. Archiviamolo sole estivo e dal 1 settembre si riparte. Cerchiamo di ripigliarci. Senta, sì. E invece la questione, l'endorsement nei confronti di Renzi, possiamo voltare pagina, chi credeva nell'Ulivo ha detto lei, adesso lo sostenga. Non è scontato sì. però questo appoggio di chi credeva nell'Ulivo in Renzi, o sì? Beh, io... innanzitutto sono vari ulivisti e gente che... Cioè la Bindi, tanto lavora... per dirne una ulivista, Renzi credo che lo strangolerebbe con le sue mani. Sì, lì però c'è un mix di questioni personali e di questioni politiche. Il punto però è che Matteo Renzi, al di là delle sue forze e delle sue debolezze, io vedo più forte che debolezze nell'azione politica di Matteo Renzi in questo momento, riesce a aprire un campo largo, cioè riesce a reinterpretare quel Partito Democratico ampio, potenzialmente unico partito di centro-sinistra, e che era un po' l'iniziale progetto dell'Ulivo, perché quando l'Ulivo fu lanciato proprio per creare un grande movimento politico prima che doveva diventare un partito unico del centro-sinistra. E io credo che l'unico oggi che è sul campo e che può reinterpretare questo tipo di proposta politica, che vuol dire confermare e migliorare il bipolarismo italiano, vuol dire non fermarsi di fronte alla situazione attuale con i tre poli, con sì. Grillo, Terzo Incomodo, ma lavorare per una democrazia bipolare e che sappia decidere dell'alternanza. Questo vuol dire anche una legge elettorale maggioritaria e non proporzionale corretta. Beh, non tocchiamo questo tasto perché tanto è inutile, non si fa mai nulla. Questo è, per me questa è la bici sì. dell'Ulivo, ecco, io sono in politica. Ma quindi lei è convinto, per esempio, che Renzi non abbia nulla a che fare con i famosi 101 franchi tiratori, perché lui aveva stoppato Marini, non Prodi, però qualcuno aveva accusato anche lui di essere. Lei invece pensa che i renziani non erano tra quei 101? Io credo di no, credo, non vedo neppure obiettivamente quale interesse dopo la spinta che Renzi e Renziani avevano dato nelle ore che precedevano sì. la decisione della nostra assemblea alla candidatura di Romano Prodi, non vedo quale potesse essere però se questo vale anche, vale anche per tutti, anche per i franchi tiratori, cioè no, nessuno no, aveva detto no, però c'era qualcuno che aveva un po' storto la bocca, no, forse no, c'era qualcuno che era molto meno convinto. Beh, è vero una cosa che Renzi che aveva sottovoce, è vero che Renzi aveva detto chiaramente no a Marini e invece aveva detto sì a Prodi, quindi se voleva dire no a Prodi poteva dirlo altrettanto apertamente. Gli ascoltatori al 349-238-6666 il nostro SMS chiedono: chi è da Gozzi, chi sono i 101? Cioè, vi siete cioè, guardi, continua allora, la personale guardi. Crociata, personale, insomma, di altri su questo, avete io appurato credo qualcosa? Che vada continuata. No, guarda, bisogna assolutamente continuarla, perché guardi, non è tanto e solo scandaloso quello che è successo. Tra l'altro i 101 in realtà erano 119, non erano 101. Però 101 giornalisticamente veniva però meglio. Però 101 funziona molto meglio, quindi rimaniamo ai 101. Non solo è scandaloso quello che questi 101 traditori, criminali politici hanno fatto, ma non tanto hanno fatto alla democrazia, hanno fatto al senso di realtà delle istituzioni. Quello che è ancora più scandaloso è che non ce n'è stato uno che abbia avuto il coraggio di dirlo. Io sono uno dei 101 e sì. ho votato contro Prodi per questi motivi politici. Addirittura c'erano quelli che avevano fotografato la scheda, però poi in realtà sì, era tutto un bluff. Cioè, quindi abbiamo 101 vigliacchi anche, perché non hanno il coraggio di dire. Beh, ma non sono pochi, per però, me la perché... politica, per me la politica è una cosa molto semplice. Quanti sono i parlamentari del PD? Dico quello che faccio sì. e faccio quello che dico. Cioè, è una quota grossa. Semplice. Comunque, vabbè. Senta, un'altra cosa. Qualche giorno fa Daniela Santanchè ha detto che per come sono messe le cose adesso avrebbe votato Prodi e non la rielezione di Napolitano. Era un voto in più, ma andava bene anche quello della Santanchè, voglio dire. Il problema però è che la Santanchè era in prima linea con Silvio Berlusconi, con altri PDL, a dire che se avessimo eletto Romano Prodi, cioè se avessimo eletto l'unica persona che due volte ha battuto Berlusconi, che è stato presidente della Commissione Europea, che è al momento inviato speciale dell'ONU in Africa, nel Mali, beh, se avessimo votato questa persona che mi sembra... Non avrebbe salvato Berlusconi. No, sarebbero emigrati di massa, in massa, si ricorda? Sì, qualcuno aveva detto anche questo. And now, the good news! A Molfetta è attivo il primo taxi sociale, un servizio di accompagnamento gratuito dedicato agli anziani e ai disabili con problemi di mobilità residenti nel comune. Il servizio è svolto con un'automobile attrezzata che accompagna gli utenti negli spostamenti in città. Serve un passaggio? Eccoci qua, sono quasi le 20 in punto, tra poco sentiremo anche i titoli dei telegiornali, TG1 e La 7, sentiamo forse se ci sono già i titoli della 7, no non ci sono, c'è la pubblicità, tra un attimo. Allora sentiamo Alessio da Firenze, buonasera Alessio. Buonasera Alessio, buonasera. Ci chiamiamo nello stesso modo, quindi... Però possiamo andare avanti, prego. Allora io faccio complimenti al barista che ha tolto le slot dal locale. Sentiamo i titoli della 7, mi scusi, poi prego, torniamo prego. Su di lei. Prosegue il braccio di ferro tra PDL e PD sul futuro politico di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ribadisce di non volersi fare da parte. Nessuno può togliermi la parola e il ruolo, dice, ci sono molte strade da percorrere. Alfano chiede al PD di votare contro la decadenza da senatore di Berlusconi, ma Franceschini replica, non si baratta la legalità con la durata del governo. Governo sempre più in bilico e il Premier Letta si reca dal presidente Napolitano. Torna ad attaccare Grillo al grido di mandiamoli tutti a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede di tornare subito alle urne. Facciamo le elezioni e poi la legge elettorale la cambieremo noi, dice Grillo. Napolitano dire dimissioni. Nessun accordo dunque sulla riforma elettorale che prima il Movimento 5 Stelle chiedeva. Ora sono loro ad avere fretta di cambiare, spiega Grillo, perché con il Porcellum al governo andremo noi. L'allarme crisi non è rientrato e la Federal Reserve per ora non decide. L'emissione di aiuti per 85 miliardi di dollari continua con una graduale diminuzione, però entro il 2014. Scenari incerti a cui i mercati reagiscono però guadagnando, a cominciare da quelli europei che oggi hanno chiuso tutti in positivo, con Piazza Affari miglior listino più 2,56. Buoni segnali per il nostro paese, dai dati dell'Ocse il PIL è ancora negativo, meno 0,2%, ma migliora decisamente rispetto al trimestre precedente. Si intravede dunque la ripresa. Tra IMU, legge elettorale e disoccupazione c'è anche chi trova il tempo per contestare la nuova edizione del celebre gioco di società Monopoli di prossima uscita. Sono 7 deputati del Partito Democratico che hanno scritto all'ambasciatore statunitense per protestare, sostituire casette e alberghi con pacchetti azionari e togliere la prigione è, sottolineano, disegnativa. Sul problema dell'immigrazione il vice premier Angelino Alfano rinnova la richiesta d'aiuto all'Unione Europea che afferma non può chiedere ma deve anche dare, e sul tema degli extracomunitari carcerati, oltre 23.000 nel nostro paese, lancia una proposta: ai paesi di provenienza dei detenuti paghino almeno il loro vitto e alloggio. Una proposta che dal Fronte Democratico definiscono strampalata, meglio che pensi alle condizioni dei centri di accoglienza, dice Livia Turco. Hosni Mubarak è stato scarcerato, l'ex presidente egiziano ha lasciato la prigione di Torado, era detenuto dall'aprile del 2011 e portato nel vicino ospedale militare. In attesa del processo all'ex presidente sarà concessa la libertà vigilata. Sul fronte siriano, mentre la comunità internazionale reagisce con prudenza alle notizie che parlano dell'utilizzo di armi chimiche da parte del regime di Assad, la Francia minaccia, se confermato l'uso dei gas, pronti a rispondere con la forza. Eccoci qua rientrati con Alessio da Firenze che aveva cominciato il suo intervento, prego. Sì, allora no, volevo fare complimenti al barista che ha tolto le slot del suo locale, perché è stato veramente, secondo me, un atto di coraggio, perché nella mia esperienza ho avuto l'occasione di partecipare alla vita di un circolo Arci e qualche anno fa, e le due slot che c'erano nel bar servivano per pagare il mutuo del circolo. E più di una volta ci siamo posti il problema, però da lì ho capito che il capitalismo ha vinto, perché quando si tiene... Cioè dalle slot machine al circolo Arci, lei ha capito che nella battaglia tra... è una battaglia persa, e quindi perché tra poi... il capitalismo e i circoli Arci aveva vinto il capitalismo. Beh, ha vinto il capitalismo, perché quando c'è ogni mese il mutuo della banca che c'è da pagare, e con la crisi... Ah, per quello, non per via delle slot, ma perché il fatto dell'impellenza economica diventa motivo per giustificare tutto, anche una cosa che magari voi nel circolo non condividevate. Esatto, bravissimo, perché comunque quei 1000 euro, 800, 1000 euro che entravano ogni mese servivano per pagare il mutuo o per fare altre iniziative. Quindi... Però non avete avuto crisi di coscienza su questo, no? No. All'epoca. No, poi io non ci sono più ora, ho lasciato tutto, partito e... In polemica e contro le slot machine, no, però insomma, quando lo Stato, ha detto bene un intervento precedente, fa il biscazziere invece di proteggere i suoi cittadini e diventa lui veramente il banco, perché non ci sono soltanto le slot, ci sono tutti i centri scommessa che Poi però è comunque una libera decisione, certo, porta soldi, però è una decisione, è vero che lo Stato è il banco, però poi ogni bar che la ospita, ogni circolo che ospita le slot machine è una decisione volontaria, non si può dare la colpa nel cliente che va a utilizzare, certo. Abitando a Firenze ci sono state polemiche per l'apertura di un casinò a Montecatini anni. Sì. C'è sempre il diniego, quando poi invece in ogni bar c'è la possibilità di spendere il proprio stipendio. Va bene, grazie Alessio. Sentiamo i titoli del TG1. Berlusconi: se ci sarà crisi non sarà colpa mia, nessuno mi impedirà di essere leader del mio partito. Alfano: PD dica no alla decadenza. Il premier Letta ha ricevuto al Quirinale da Napolitano Franceschini: nessun baratto tra legalità e durata del governo. Nuovi orrori in Siria, Francia e Gran Bretagna non escludono l'uso della forza, in Egitto scarcerato l'ex presidente Mubarak. Roma: torna a casa il vicino pedofilo, il giudice è anziano e non può nuocere, ma per la vittima l'incubo si ripete, lo psichiatra il danno continua. Trema la terra, paura sulla costa anconetana, la scossa di magnitudo 4.4 non fa danni ma frana un costone del Monte Conero. In anteprima al TG1 il nuovo video di Marco Mengoni, la canzone si intitola Non passerai, terzo singolo dal disco Pronto a correre. Non passerai inosservato, ha promesso su Facebook il cantante a tutti i suoi fan. Riprendiamo con gli ascoltatori, abbiamo Roberto che ci chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo intervenire sul discorso fatto dal direttore degli Uffizi. Premetto che non ho sentito poi se ci sono stati altri interventi in merito. No, non c'è stato nessun altro intervento su questo. Comunque avevo segnalato alla signorina che io ho partecipato a alcune cene nel palazzo di Versailles, quindi in un ambiente... Nel palazzo di Versailles? A Parigi, Versailles. Sì, sì. A delle cene offerte a me e ad altre persone da una grossa ditta francese, con doverosa presenza, diciamo, del marchio, dell'immagine di questa ditta, ma non solo nel momento in cui io e le altre persone... ma comunque un po' in generale mi sembra che noi in Italia abbiamo molto spesso una ritrosia più su un'incapacità di valorizzare le nostre cose. Lei ha chiamato sugli Uffizi, in realtà più sulla vicenda degli sponsor che aiutano i siti monumentali, insomma, come il Colosseo per esempio, questo che sta dicendo. Da un discorso che lei il direttore mi pare degli Uffizi. Sì, sì, sì, ho capito. Vabbè, all'estero lei dice da questo punto di vista sono più, si fanno meno problemi, può darsi. Sicuramente in Italia problemi ne ha fatti il Codacons, che ha fatto ricorso contro la sponsorizzazione di Della Valle sul restauro del Colosseo, poi però il ricorso è stato perso e adesso i lavori dovrebbero partire. Anche il ministro dei beni culturali ha detto che va tutto bene così e anche il direttore degli Uffizi era d'accordo su questo. Giulio da Milano, buonasera. Buonasera dottore, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire riguardo al tema dell'immigrazione, cioè io sono stupito nel constatare la cecità di molti miei connazionali o comunque la mancanza di coraggio, perché molte persone se la prendono con i parlamentari, con i loro stipendi, cose giuste, per le spese per la difesa che secondo me comunque sono utili, e non sanno che tutti i giorni milioni di immigrati godono di vantaggi incredibili, cioè mense scolastiche gratuite, assistenza sanitaria gratuita, aiuti per il pagamento dei mutui, cose che vengono rifiutate agli italiani. Ma lei, scusi, però lei in realtà si riferisce a quegli aiuti che vanno a chi non ha, anche agli italiani, cioè non so, la Caritas dà da mangiare agli stranieri, ma dà da mangiare anche agli italiani se hanno bisogno. Guardi, mi hanno, cioè, questi aiuti qua andrebbero dati soltanto comunque con precedenza agli italiani, cosa che non viene fatta, perché molte persone che ricevono aiuti sono clandestini e non dovrebbero avere aiuti, perché se noi diamo aiuti anche ai clandestini li daremo a milioni e milioni di persone, che anche quelle che arriveranno. Sì, ho capito, lei cioè non credo che voglia vedere morire di fame un clandestino, però fa un discorso di disincentivo, cioè se si aiutano troppo tutti i clandestini, poi è chiaro che per esempio nelle città dove ci sono più servizi cioè, ci può anche essere più affluenza, perché magari si sparge la voce. E vabbè, questo è vero, è un prezzo da pagare, però se non vogliamo vedere morire di fame delle persone umane, anche se sono dei clandestini, ha capito? Poi parliamo di aiuti, ma non credo che parliamo, non è che nessuno gli paga il mutuo per farsi la casa. Li aiutano, però l'Europa non ci aiuta. Questo fare è un altro discorso. Su e questo, la torta la dobbiamo dividere tutti all'infinito, perché poi ci sono addirittura, addirittura la CGIL dice che dovremmo accettare tutte le persone che arrivano e dare tutti i servizi a tutti. Ma com'è possibile fare una proposta del genere? È folle, cioè non ho parole, veramente. Cioè, vabbè, Giulio, non avere a cuore l'Italia. Grazie per il suo intervento. Restiamo a Milano. Guido, buonasera. Buonasera, saluti a tutti. Io volevo tornare sul discorso degli Uffizi. Sì? Molto probabilmente il discorso dei biglietti è perché è stata data in concessione la biglietteria, compreso il personale, sì, no, come avviene nella maggior parte dei musei. Per ma, cui ma, se io ho la concessione della biglietteria posso, non dico diminuire i prezzi, ma posso fare anche degli aumenti per far saltare la coda. Però scusi, ma non dovrebbe essere così semplice il discorso, perché se no il direttore degli Uffizi che gestisce la sua di biglietterie, quella ufficiale, non si sarebbe per mi questo scandalizzato. Mi ha stupito. Lei ride così, cioè, perché in effetti il direttore degli Uffizi è sembrato anche un po' impreparato forse su questo. Ora, mi perdonerà se mi sente, però non sapeva nemmeno chi aveva dato la concessione a questa agenzia per operare. Sicuramente qualcuno gli avrà sarà dato. Il suo, diciamo, la sovrintendenza, no? Allora, però io mi scusi, resta il fatto che è un'anomalia che uno sta in coda e vede a fianco l'altro che paga di più e salta la coda ricomprando un biglietto già comprato, in sostanza quello che fanno i bagarini, solo che è illegale. È un'anomalia o no, secondo lei? No, ma lei diceva che erano vestite di giallo e si vedevano, per cui non è più un discorso, secondo me, di bagarinaggio. Io non sono mai andato allo stadio. Ma non solo perché sono vestite di giallo, non è bagarinaggio, è la sostanza che conta. Vabbè, comunque, fra l'altro è una cosa ma capito, cioè io ci voglio guadagnare di più, sì, no, come concessionario, no, e a quel punto mi invento delle cose per guadagnare di più. Cioè, secondo lei è lecito? Come nella gara non è specificato, sì, no, la cosa, ecco perché. No, no, ma è vero, ma è come dice lei, è chiaro che è un'idea per guadagnare qualcosa in più. Il problema è di capire chi ha avuto questa idea e se, diciamo, rispetto ai turisti, questa cosa qua può creare sconcerto, può creare anche un disincentivo in qualche modo, perché uno va in un museo e c'è una cosa, va in un altro e ce n'è un'altra. Invece forse ci vorrebbe uno stile unico, no? Perché poi sappiamo che queste sono delle cose che dicono i turisti che vengono in Italia, che sono disorientati perché ogni posto è diverso dall'altro. Dino da Modena, buonasera. Buonasera, ho piacere di parlare con lei. Ma non so se sono ancora qua, ma se volevo parlare del Meeting di Rimini. Sì, prego. No, perché sentendo il meeting, sì, vedendo chi lo frequenta, penso che ci siano tre estremismi in Italia. E l'estremismo di sinistra, l'estremismo di destra e l'estremismo di centro, che è quello più pericoloso, quello di centro. E sono estremisti, cioè come Unione e Liberazione sono estremisti, perché mi voglio condizionare la vita a me, che non sono cattolico, me l'hanno condizionata. Perché gliel'hanno condizionata quelli di Rimini? Comunione, Liberazione, Micone, così, non voglio dare dei diritti a gente che non è il punto di riferimento della Chiesa. Per me la Chiesa non è un punto di riferimento, anzi, anche dei cardinali, vedo Bertone, il cardinale Bagnasco, che proteggono anche i pedofili, tanto per dire, no? Perché li proteggono, non hanno, nella giurisdizione cattolica non sono obbligati a denunciare i preti pedofili. No, perciò lì cosano il cardinale Bagnasco, il cardinale Bertone, ma anche quello che è andato in galera l'altro giorno. Mi vuole condizionare la vita a me, la morale a me che sono un onesto cittadino, loro, io non posso avere l'eutanasia per me, perché lo dicono loro, ma che pensino per loro. Cioè lei è per un sano relativismo, ognuno dovrebbe poter fare come gli pare, o liberalismo, insomma, da questo punto di vista. Invece si sa che la Chiesa ha una morale forte, la vuole imporre, e questo è così. Io sono d'accordo con lei, Dino, sono d'accordo perfettamente con lei. No, perché io vedo la domenica mattina per televisione, sì, e quel programma a sua immagine e somiglianza, se la dicono, se la cantano. Non lo so cos'è. No, io vorrei anche una trasmissione dove racconta anche l'ateismo. Io vorrei i diritti dell'obiezione di coscienza che hanno i medici. Vabbè, ma forse proprio per quello che diceva lei non c'è bisogno di una trasmissione che veicoli. Cioè, nel senso, loro lo fanno proprio perché vogliono indottrinare. Se lei non deve indottrinare nessuno, è libero di stare senza trasmissione, no? And now, the good news! Chiara Caielli, una laurea in scienze della comunicazione e un lavoro part-time con scarse prospettive, non si è data per vinta e si è inventata un lavoro. Oggi fa la Dog Stitchera, cucina dolcetti e biscotti per cani, e la sua iniziativa sta avendo un grande successo. Merita 3 zampe Michelin. Allora, sentiamo Massimo che ci chiama da Cagliari. Buonasera, Massimo. Sì, pronto, buonasera. Eccoci qua. Allora, io volevo intervenire riguardo la vicenda che coinvolge Berlusconi. Ho espresso appunto alla centralinista che ha risposto, insomma, la mia preoccupazione che una sua estromissione dalla scena politica possa surriscaldare gli animi. Ma facevo riferimento all'Egitto, vabbè, lì chiaramente stiamo parlando di tensioni che si spera qui non si arriverà al sangue, però è chiaro che ci potrebbero essere delle sollevazioni, dei malesseri profondi in ampi settori, e forse Napolitano, per evitare questi problemi, potrebbe, che ne so, pensare a un provvedimento di grazia, oppure... Ma non ho capito, questo è uno scenario che lei auspica, oppure che lo descrive così in maniera neutra? Temo. Lo teme. Cioè lei dice, Napolitano, diciamo, è spinto ad agire per la paura della piazza. Però la piazza che abbiamo visto fino ad ora in via del plebiscito erano 4 gatti, diciamolo proprio chiaramente. Però, che ne dica la Biancofiore, eravamo 25.000, erano 2005 forse. Sì. Probabilmente perché si spera dopo in qualche cosa che di politico possa intervenire, cioè un conto è una sentenza, però possono subentrare meccanismi come la commutazione della pena. Vabbè, questo staremo a vedere. Grazie Massimo, grazie, buona serata. Buonasera. Sentiamo Maria Teresa da Napoli. Pronto? Maria Teresa, tocca a lei, si prego. Sente? Sì. Senta, io volevo ritornare su un discorso di prima, volevo ricordare a quei pochi che non lo sanno che né Che Guevara né Gramsci furono condannati per frode fiscale, e che Gramsci scrisse i quaderni dal carcere, non le canzoni con Apicella. E poi volevo commentare che ogni partito ha il fondatore che si merita. Ogni partito? Ha il fondatore che si merita. È bello il paragone che lei ha fatto tra le lettere dal carcere e le canzoni con Apicella. Però credo che nel PDL si riferiscano alla situazione di essere perseguitato. Ma per favore, cioè per favore, Mussolini disse che Griffello di Gramsci era un cervello che non doveva essere fatto più pensare. Sì. Berlusconi spazia in 500 ville e può fare benissimo guidare il partito come lo guidava Sturzo. Sturzo. Lo Sturzo ai suoi tempi. Va bene, senta, grazie Maria Teresa. Sentiamo un po' male anche tra l'altro. Antonio da Ascoli, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Niente, il mio intervento era molto semplice, molto moderato. È solo una riflessione. Noi che tutti i giorni operiamo come artigiani, non sappiamo veramente se arriviamo a fine mese e navighiamo a vista. Sinceramente, una sedia più, una sedia meno, in quel Parlamento dove tutti dovrebbero mettere la testa sotto il banco, perché dovrebbero vergognarsi bene o male quasi tutti, chi per un motivo, chi per un altro. Credo che ci siano motivi ben più grandi su cui discutere in questo momento, in questo paese. Una delle cose che è passata in modo molto leggero sotto gli occhi di tutti, in un silenzio surreale, che sono state cancellate le prove di una trattativa Stato-mafia. Credo che sia molto più grave se quell'uomo, cui parliamo, Silvio Berlusconi, debba stare dentro o fuori quel Parlamento. Io credo che ci siano cose ben più gravi, e molta gente che era intercettata in queste trattative sta al Senato, sta lì. Quindi noi guardiamo quell'uomo, certo che per il PD questo è un grande assist, non nascondiamo che è un assist. Grazie Antonio, grazie, buona serata. Il suo intervento resta appeso perché non ci sono altri ascoltatori, è il momento della bella storia. Allora, torna d'attualità il tema di quanto guadagnano i sindaci, troppo, troppo poco. Negli anni lo stipendio del sindaco è sceso sotto la pressione giusta delle critiche per quanto guadagnano i politici. Adesso il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha detto solo 4.500 euro, troppo poco, prima o poi bisognerà riequilibrare, ma gli altri sindaci intervistati hanno detto tutti no, va bene, ci basta così, anche perché hanno paura di essere inseguiti coi forconi dai concittadini infuriati. Detto questo, noi vi vogliamo raccontare una storia che ha poco a che vedere con questa situazione delle grandi città. Siamo a Lagnasco, in un piccolo comune in provincia, credo, di Cuneo. Salutiamo intanto il sindaco Enrico Testa, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Lagnasco, provincia di? Cuneo. Cuneo, ho, esatto, detto bene. Sì, un, sì, paese di quanti abitanti? 1.400. Piccolo paese, nel quale lei è, sì, sindaco da quasi 4 anni. Sì. Quasi a fine mandato. Lei, se non ricordo male, anche qua è la sua giunta, lavorate senza stipendio, ma non perché non ci sono i soldi, ma perché per scelta. Sì, noi l'abbiamo fatto per scelta fin dall'inizio, perché diciamo che onestamente possiamo farlo, in quanto essendo amministratori pubblici di un piccolo comune dedichiamo una parte del tempo, siamo tutti quanti o piccoli imprenditori, professionisti oppure dipendenti, e quindi abbiamo lo stipendio da un'altra fonte. Avete le vostre entrate, come poi capita un po' a tutti, sì, a chi non vive di politica di professione, ecco. Sì, praticamente, esatto, praticamente dall'inizio ci siamo detti ma ci sono diverse persone, come l'abbiamo fatto anche noi per altre cose prima, che si impegnano per il volontariato, per le altre persone, e quindi facciamolo anche noi su questa attività qui, anche perché così diamo l'esempio e incentiviamo altre persone. Cioè la politica a livello locale in un comune piccolo può essere parificata dal suo punto di vista quasi al volontariato. Quanto dovrebbe guadagnare un sindaco di un comune, perché ci sono delle leggi su questo in Italia, sì, come il suo, quanto sarebbe lo stipendio? La mia retribuzione dovrebbe essere attorno ai 1.200 euro lordi mensili, e quindi un netto di 700-800 euro. A casa sua non è che saranno molto contenti di questa sua decisione, insomma, moglie e figli? No, anche perché diciamo che di questi tempi con la mia azienda naturalmente non navigo, anzi ho parecchi problemi, e quindi non sarebbe scomodo un'entrata di quel tipo lì in più. Però voi volete dare questo segnale, l'avete dato in questi 4 anni, e tra l'altro avete scelto anche un metodo che è quello di mettere proprio a bilancio i soldi risparmiati e di investirli su dei progetti. Per esempio l'ultimo progetto che avete finanziato per quanto riguarda questo risparmio degli stipendi suo e della giunta, su cosa avete puntato? Noi l'anno scorso abbiamo ancora realizzato due dossi fissi con i 25.000 euro circa, che sono il totale del compensi di sindaco, giunta e gruppo di maggioranza, e quindi abbiamo realizzato per 3 anni, gli anni precedenti un servizio pubblico, che erano delle opere pubbliche che si potevano fare. Quest'anno lo dedichiamo praticamente a coprire il contributo alle associazioni, perché altrimenti verrebbe a mancare nella spesa corrente una parte di entrate, e quindi utilizziamo questa cifra proprio per i contributi alle associazioni, e lei volontariato, sportivo, sì, eccetera. Aveva detto anche che sta cercando di fare scuola, cioè di spera che dopo di lei, io non so se si ricandiderà, se sarà rieletto, si creino comunque nuove generazioni di giovani del luogo, che in qualche modo vivano nello stesso modo, no, la politica, cioè come fatta part-time, un servizio ai cittadini. Sì, e ci sta riuscendo a farlo? Effettivamente. È riuscito a far scuola? Io mi augurerei di sì. Diciamo che nel nostro comune molti anni fa i sindaci già lavoravano in questo modo, ma erano altri tempi, sì, parliamo di 20, 25, 30 anni fa. Poi naturalmente le cose erano cambiate, e noi abbiamo ripreso questo sistema. E mi augurerei, avendo molti giovani, giovanissimi, io ho due assessori di 24 anni, ho altri giovani in consiglio che quindi prendono questo esempio qui, e comunque che lo riusciamo a trasmetterlo alle nuove generazioni, a chi entrerà nuovo nelle prossime legislature. Senta, questo sì, che abbiamo descritto vale per voi di Lagnasco, 1500 abitanti in provincia di Cuneo, e avete trovato questo equilibrio. Complimenti, intanto, perché non è da tutti. In altri paesi piccoli, dove comunque la politica può essere concepita, come dice lei, come part-time o volontariato addirittura, però non è così, anzi, forse nella maggior parte siete una mosca bianca. Per quanto riguarda invece una situazione come quella di una grande città, è giusto che un sindaco abbia uno stipendio anche importante, secondo lei? Assolutamente sì, lei faccia il rapporto, io ho da amministrare 1400 abitanti, una grande città si parla di 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni di abitanti, io ho 5 dipendenti, è una grande città, ne ha decine di migliaia. Quindi lei, abbiamo detto che rinuncia a 1200 euro circa per lordi, poi sì, netti sarebbero molti meno, netti, sì, quelli di Marino sono 4500 euro per governare Roma. Per esempio è assurdo che ci sia questo rapporto con uno sbilanciamento così piccolo tra un comune di 1500 abitanti e una metropoli da... Cioè voi, lo stipendio per voi è alto, infatti lei lo dimostra, ne fa addirittura meno perché il comune è molto piccolo, quando arriviamo in una città grande forse si è esagerato con l'abbassare lo stipendio. Io ho presente che ci sono molti dirigenti pubblici, sì, di tutti i settori. Dobbiamo chiudere però, è in 10 secondi, mi scusi, ma siamo in chiusura. Okay. Quindi parliamo di dirigenti di comuni, di ministeri, sì, magistratura e quant'altro, che hanno dei compensi molto ma molto maggiori, con molte meno responsabilità. Quindi bisognerebbe, come sempre, trovare il giusto equilibrio, il buon senso. E questo è il messaggio che ci arriva da Lagnasco. Grazie al sindaco Ernesto Testa, grazie a tutti, Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Andrea Piana, Valeria Bernardi in regia, Carlo Gabardini, lo ritroviamo spero domani. Buona serata a tutti anche da me, Alessio Maurizio, a domani.